Sapete perché la zanzara ha tanto successo? Perché non recitate, parlate dell'umanità, che è così. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. There's a voice in my head that drives my heel. A Grugia, siamo stati col freddo e la pioggia a aspettarti 2 ore sotto la sede, no? Non ci fai fare manco un cazzo di esame per ascoltare sta cazzo di zanzara. Tutte le mattine con sto cazzo di podcast, a Grugia. Guarda, sei una droga, la zanzara è una droga. Torni a casa la sera e la prima cosa che chiedi a tua moglie non è come stai, cosa hai fatto, hai fatto la spesa, cosa c'è da mangiare, ma hai sentito Cruciani che ha detto oggi? Allora ragazzi, iniziamo con la Boldrini come al solito, minchiata del giorno. Stavolta Parenzo credo che sarà d'accordo con la signora presidentessa della Camera, la quale dice che con le tasse degli immigrati paghiamo molte pensioni. Adesso, beh, no, non c'è dubbio, è una no, cosa banale. No, questa è una baggia... una cosa, sì, banalissima. Ti puoi arrabbiare perché è banale. Ma no, perché è una baggianata colossale. Una baggianata... Una baggianata, ma che c'entra con le tasse degli immigrati? Chiedilo a Barisoni, chiedilo a Boe, no. Chiedilo a Boe, chiedilo a Pasolini, chiedilo a Moravia, chiedilo a Caravaggio. Si sente male, Boldrini. E noi dobbiamo capire che è importante il fatto che loro facciano parte della nostra società. Queste persone pagano le tasse, noi paghiamo molte pensioni grazie al fatto di... queste persone pagano le tasse. Ma non sa nemmeno quello che dice, secondo me. Mi sembra chiarissimo. No, ma è anche vero, cioè, è talmente banale. Allora, che... senti questa roba qui incredibile. Allora, ma cos'è, cioè... che non è vero? Non ma posso... non è così semplice come sembra la cosa. Ma non cosa è che con le tasse se... degli immigrati paghiamo le pensioni. È una stupidaggine, cioè è una stupidaggine. Certo. Ma certo. non è vero. Grazie, questo lo dice anche l'Inps, lo dice. Ma anche non è così, non che è... le tasse, vabbè. Vabbè, non è. Allora, lo dice lui. Senti questa nuova, in realtà non è molto nuova. Sai che ci sono gli incendi in Sicilia come sempre, sì, naturalmente. Sì, come no, c'è stato il vertice con Alfano l'altro sì, ieri. Sì, ma il vertice con tutti interessi sì. Solo a queste cose. L'unica cosa da dire sì, è che non c'è nessuna sì. Novità, non è una novità. C'è stato un vertice in prefettura con Alfano, è ma una che cosa cazzo che me ne frega a me ieri. Del vertice in prefettura con Alfano? È una cosa che si ripete ogni anno. Sì, ogni anno. Ogni anno e non cambia mai nulla. Incendi nonostante i forestali, che sono tantissimi. Ecco, sì, molti anche, molti anche inquisiti per mafia, tra l'altro. Molti di questi forestali. Vabbè, beh, come? Vabbè, un cazzo. No, cioè, è vero. Molti vero. Sono inquisiti. 3.500 hanno processi in corso, vari, dai più piccoli ai più grandi reati. Allora, c'è un tizio che si chiama Antoci, che credo che sia il capo dei parchi, non so esattamente il suo ruolo, il quale ha detto che i piromani danno fuoco ai gatti vivi per incendiare i boschi. Cioè ai gatti vivi. Ai gatti vivi, cioè, perché sì. È più facile in quel modo, capito? Certo, è anche forse certo. Meno... come una miccia, è una miccia volante. Una miccia, una specie miccia... di freccia di fuoco. Che... sì, freccia che... di fuoco, bello. Sì, una specie di missile lanciato, capito? Il gatto, frrr, infuocato, senti. Ci sono delle tecniche anche efferate che utilizzano, come quello per esempio di dare fuoco agli animali, ai gatti, a dare fuoco ai gatti vivi e poi li lasciano andare, questi poveri animali che corrono bruciando e che appiccono il fuoco con i gatti, capirai. E che, e come si fa poi ad andare a vedere se un incendio è doloso o meno? Beh, direi che è meraviglioso, cioè è meraviglioso, è una porcheria, naturalmente, una cosa assolutamente terribile. Abominevole. Una cosa abominevole, però è una specialità sicula, pare, una specialità sicula. Non so, è una specialità sicula. Beh, ragazzi, credo che sia proprio una specialità sicula, cioè di quelle zone lì, cioè, non ho, magari anche in Calabria, non lo so, cioè, non mi risulta che in Lombardia, non mi risulta che in Lombardia brucino i boschi facendo esplodere i cani o infuocando i cani, non i gatti, i cani, quello che non è. Lo no, so, ma no, non mi risulta, amico mio, non mi risulta, cioè, non mi risulta che in Lombardia, in Piemonte, cioè, magari mi sbaglio, ci siano gatti che prendono fuoco, vanno dentro le foreste e ci sono incendi dolosi. Non mi risulta, però. Tutto questo perché? Perché conviene avere gli incendi. Conviene avere gli incendi. E dunque conviene si brucia. A chi? Alla regione? Ma a tutti conviene avere gli incendi, a tutti. A quelli che devono avere lavoro e dunque anche alla regione, alle clientele, alla politica. Diciamola tutta. Conviene avere gli incendi. Per una parte della classe politica siciliana, per una parte di quelli che sono assunti forestali e affini, conviene che ogni tanto divampino gli incendi. Coi gatti, purtroppo coi gatti. I piromani danno fuoco ai gatti, incredibile. La notizia più sconvolgente di oggi però viene dalla Campania, amico mio, il garante per l'infanzia. Senti che cosa dice il garante per l'infanzia. Parte il garante per l'infanzia, ci sarebbe... Cioè ogni regione ha un garante. No? Ma non lo so, ma che io abolirei tutto questo. Il garante per l'infanzia, però in questo caso il garante per l'infanzia, ma che senso ha il garante per l'infanzia? Comunque questo, il garante per la zanzara. Per la prima volta sento una frase da parte del garante per l'infanzia, una frase che ha un suo senso. In Campania, stiamo parlando della Campania, ragazzi, non ci addossate sempre la colpa di essere anticampani, antinapoletani, antimeridionalisti, non è così. Non lo dico io, lo dice un signore che si chiama Cesare Romano, che è il garante dell'infanzia e dell'adolescenza della regione Campania, ruolo assolutamente privo di ogni utilità. In questo caso però ci dà una notizia. Abbiamo testimonianze dirette e indirette che ci sono intere zone in quartieri molto critici in cui l'abuso sessuale e l'incesto è elevato a normalità. Cioè in Campania ci sono zone dove l'incesto è la normalità e l'abuso sessuale naturalmente nei confronti di minori. E poi elenca anche le zone. Ci sono quartieri molto critici, il quartiere Salicelle ad Afragola, Madonnelle ad Acerra, come tante zone di Napoli, non ultimo Caivano, con i fatti che conosciamo bene. Ragazzi, chiudere tutto, cioè queste zone qua, diciamo la verità, lo certifica anche questo signore dicendo che l'incesto, non stiamo parlando delle rapine, l'incesto e l'abuso sessuale, inutile spiego che cos'è l'incesto a persone dotate di un minimo di senno e di ragionevolezza, è la normalità. L'incesto, non le rapine, quello lo sappiamo, non la criminalità, l'incesto. Allora, cosa si vuole fare con queste zone? Centinaia di case, si parla di 200 casi all'anno, di 200 casi negli ultimi tempi. Ma cosa si deve fare di più per far intervenire qualcosa di concreto in queste zone? Si sanno addirittura i quartieri, chiudere tutto, mettere l'esercito. E a proposito di Campania, Mastellone con noi più tardi qui in trasmissione. Mastellone parla, si paragona Clinton, Trump, Sanders. Cioè, non è che si paragona a questi, dice... Hanno la mia età, sapete che è stato eletto sindaco di Benevento con il 62%, e dice hanno la mia età o addirittura più vecchi. Secondo me bisogna evitare alcune sciocchezze incredibili, quella della malattia del complesso d'Anchise, di eliminare tutti quelli che sono anziani. Guardi, negli Stati Uniti la Clinton ha la mia età, Trump ha 4 anni più di me, Sanders teneva 7-8 anni più di me. Che insomma, uno si candidasse come me alla mia età a fare il sindaco ci sta tutta. Beh, su questo non ha torto il Mastellone, Non ha torto il Mastellone. È anche vero che Trump non ha precedenti politici, Sanders nemmeno, cioè nel senso non sono... Sono delle persone che per la prima volta si candidano alla Casa Bianca. La Clinton, No, la Clinton è stata... Sì, ma la Clinton però era la moglie del presidente, cioè non ha avuto ruoli politici prima. Mastella viene da un lungo... Mastella è da 40 anni in politica però, da 40 anni. Trump no, cioè Sanders non risulta. Su questo c'ha ragione lui, gli elettori. Ma sì, ma poi per carità, votato, uno... No, ma infatti, anch'io, per me uno è vecchio o vecchio giovane, non importa. Cioè, l'importante è quello che dici, non vecchio giovane. Mastella dice anche, anzi, fa una pernacchia a Salvini, che in realtà non è proprio una pernacchia, si deve un po' specializzare nella pernacchia. Però lei ha un messaggio da mandare a Salvini? Beh, io ho fatto una grande pernacchia con quello che facevano i miei antenati sanniti quando i romani passavano sotto il giogo, perché lui in maniera diciamo... Ma la pernacchia non è proprio così, la pernacchia. Sgarbone che ha avuto un altro malore, ha avuto un altro malore, magari oggi ci accertiamo cosa ha per davvero Sgarbone. Dolori addominali, non no, cose di cuore. Una colica, sì, però si è risentito male un'altra volta, Si è risentito male un'altra volta. Ma perché deve stare fermo, non può fare quella vita. Ho i capelli color visone. Ma non, ragazzi, è come per gli americani le pistole, cioè le armi. Non puoi togliere agli americani il diritto di armarsi. E a Sgarbi non puoi togliere il diritto di girare l'Italia dalla mattina alla sera, di fare questa vita qua. Significherebbe morire, capito? È come a Berlusconi, giustamente l'altro giorno Sgarbi che diceva: hanno tolto le donne a Berlusconi e quello si è deperito, e quello si è immiserito, si è incupito. Sgarbi. E poi un'altra cosa che ho scoperto è che io non ho i capelli bianchi, perché vedo in distanza i capelli bianchi di Romani e quelli di Zanda, i miei sono color visone. È vero. Stavo osservandomi mentre stavo pazientando, che loro sono bianchi. Però io no. Oh, giustamente vi segnalano che la Clinton è stata segretario di Stato, naturalmente, sì. Però non è che ha un cursus di politica di 40 anni, in questo senso, dicevo. Allora, com'è che si chiama quel comico presentatore americano? Steve Colbert, mi dicono. Steve Colbert. Sentilo. Fare l'elogio della pipì sotto la doccia. Meraviglioso, senti, qualche giorno fa. Peeing in the shower makes sense. Researchers have crunched the numbers and determined that by not flushing toilets and by peeing in the shower instead, the American population would save 185 billion gallons of water every year. Okay? All right? Allora, pisciare sotto la doccia ha senso, e alcune ricerche scientifiche hanno stabilito che si risparmiano, credo, 185 milioni di galloni, bisogna moltiplicare per 4, insomma, una cifra enorme di acqua, una quantità enorme di acqua. E sentilo ancora, Steve Colbert, che si rivolge allo staff della sua palestra. Peeing in the shower is good for the planet. That's science. Now I'd like to take a minute to address the staff at Equinox Gym. Well, well, well. Who's the monster now? Looks like somebody owes somebody an apology. I'm sorry you caught me saving the planet for our grandchildren. Allo staff della mia palestra dico: chi è il mostro adesso? Sono stato sorpreso mentre salvavo il pianeta. Mi avete sorpreso mentre pisciavo sotto la doccia, ma in realtà salvavo il pianeta. Il problema della zanzara, il traffico. La zanzara. I'm a real wild one. Andare a prendere la mia ragazza che esce dal lavoro e sentire le sue rotture di coglioni per mezz'ora o la zanzara? La zanzara. Allora ragazzi, intervento ieri incredibile di un ascoltatore qui alla zanzara, Alan. Un ascoltatore islamico, musulmano, si è presentato in questo modo, il quale ha detto delle cose abbastanza incredibili. Prendiamone una, poi vi faccio ascoltare tutto più tardi. Se mia moglie mi tradisce, l'ammazzo. Senti. Se la donna ti tradisce, che fai tu? Se tua moglie ti tradisce? Io? Sono affari miei, poi lo saprai. Ma che succede? Dimmi se tua moglie ti tradisce. Ma no, io ho scelto una donna che non potrà mai tradire. Ma ammetti che ti tradisce, che succede? Morirà, ecco. Come muore? Ma che dice? Ci penso io poi, alla mia maniera. In che modo, scusa, la ammazzi? Ma non te ne preoccupare, te. La ammazzi? Beh, però se, possibile, perché siamo in Italia qua. Se tu sei un uomo. No, ma fammi... Io sono un uomo, certo. Tu sei un uomo? Sì. Ma io c'ho seri dubbi. No, tu io sono... la tua... vero che tu sei un singolo, non te ne frega niente del matrimonio. Sì. Non ti sposerai mai. Non accetti... cioè... Per te certi e allora valori, non ho capito. Per te non esistono. Allora tu sei un animale nato, no? Va bene, ma può darsi pure che sia così, ma tu invece becchi tua moglie che ti tradisce, che fai? L'ammazzi? L'ammazzo. Signor Alan da Bologna, prego intervenire, prego intervenire la forza pubblica, che ne so, cioè se uno dice che se lo tradisce, se la moglie lo tradisce lo ammazza, che bisogna fare, Davide? Non lo so. La procura della Repubblica. Adesso la procura, deve... cioè vadano a controllare, no? No, vada a controllare. La procura della Repubblica deve aprire un fascicolo e verificare. Aprire un fascicolo adesso. Come si chiama? Aprire un fascicolo, ma che no, è? Cioè, aprire un... Ti piace questa parola? Aprire un fascicolo. Sì, ma sai perché mi piace molto? Perché io la uso, come vedi, in modo equanime, sia per il compagno islamico, compagno no, per il signor Alan l'islamico, sia per l'amico padano che minaccia. Cioè per me non c'è differenza. Sì, parla più forte, Nicola da Bologna, dai. Per me non c'è differenza, quando c'è una notizia di reato, sì, bisogna sì, intervenire, aprire un fascicolo in procura, è meraviglioso. Nicola da Bologna, vai. Sì, ciao Giuseppe. Dimmi. Ciao, allora ti chiamo perché sono un vostro ascoltatore da tanto, non intervengo mai, vi ascolto e sto bene così. Oggi mi sono preoccupato quando ho sentito la notizia che hai diffuso dell'essere che ha detto in Sicilia che uno delle metodologie per appiccargli... Sì, ma non è uno qualsiasi, non è un passante questo qua. Chi è? Perché non ho capito chi è. Allora, questo qua si chiama Antoci ed è uno responsabile, credo, dei parchi regionali, una cosa di questo tipo. Cioè, non è uno che parla così per sentito dire. Cioè, uno che queste cose evidentemente le indaga, le sa e tutto, Benissimo, e io non ci credo e mi meraviglia che... Ma come non ci credi? Credere. Che vuol dire non ci credi? Dai. Ma scherza, ma accendere un gatto e pensare che un gatto possa appiccare un incendio vuol dire non avere un'idea di come scattare un incendio. Ma è una roba assurda, ma neanche da pensare. Scusa, ma se si appicca un incendio semplicemente buttando un cerino per terra, non si capisce perché non si possa appiccare un incendio lanciando un gatto infuocato? Ti spiego molto rapidamente. Un cerino per terra si ferma e quindi ha il tempo di appiccare l'incendio sul materiale in cui si ferma. Un gatto bruciato corre, scappa, quindi non perde la pilli di lava per terra. Un gatto viene, il suo pelo è bruciato immediatamente, rimane la carne, viene arso vivo e quindi non può appiccare incendi. È una... Chi l'ha detto? Ma questo atomica. lo dici tu? No, ma lo dice chiunque può avere un'idea di come funziona l'appiccarsi di un incendio. Cioè non sta in cielo in terra, lo vedrà nei cartoni animati forse, perché qualcuno dà fuoco alla coda di Woody Woodpecker e quello corre e fa scattare l'incendio in un bosco, ma è una cassata talmente enorme per cui un coglione che ci crede e dice merda, fammi vedere se è vero, accende un gatto e pensa di vedere scappare un incendio. No, però scusa, allora prenditela, a parte che non te la dovresti prendere con me perché non c'entro una mazza in questa cosa qua. No, io ti ho chiamato. Allora no, aspetta un attimo, questo Giuseppe Antoci è il presidente del Parco dei Nebrodi, che in un'intervista al Corriere della Sera dice ci costituiremo parte civile contro i piromani e poi racconta che in realtà i piromani danno fuoco ai gatti e li fanno correre tra i cespugli. Adesso, essendo il presidente del Parco dei Nebrodi in Sicilia, sarà una specialità lì del Parco dei Nebrodi, ma non si può dire che questo qua non sappia le cose, perché altrimenti dice cazzate. Tu però mi dici che è impossibile io ti dico che è impossibile, ma te lo dico da cretino, perché lo sono e ho fatto 3 corsi antincendio perché per lavoro li ho dovuti fare. Spero che qualcuno che ti ascolti, sono in tanti, possa perorare la sua causa o la mia causa per dire attenzione, ci sono dei bruti che fanno queste cose e queste cose non si fanno, ma che eviti il fatto che qualcuno possa emulare un discorso del genere. Vabbè, ma quello lascia perdere l'emulazione, questo che cazzo me ne frega a me. Io racconto un fatto, è chiaro che è una cosa orribile che non bisogna fare. Se qualcuno vuole emulare questo tizio si prende i suoi rischi. Tu mi stai dicendo un'altra cosa al di là dell'avvertimento. Qui non è una trasmissione in cui si danno avvertimenti. No, a me sembra una cagata talmente enorme per cui anche solo ribadirla purtroppo mi sembra veramente un po' leggero. Ma leggero, ma l'ha detto uno, ma che vuoi che ti dica? Io ci credo, non è che l'ha detto un ascoltatore così a cazzo no, di cane. Però non ha tutti i torti questo qui, effettivamente. Perché sembra se dai fuoco adesso a un gatto o a un cane, effettivamente non è che sì, nei cartoni animati quello lì saltella. Capito, ragazzi? Ma non l'ho detto, adesso lo sentiremo. Allora, no, questo ma qua ora che uno ci riflette, effettivamente non ha detto una stupidaggine. Questo ascoltatore va bene, Nicola. Comunque, adesso oggi verifichiamo. Non ti preoccupare, resta con noi, Carlo. Milano, vai. Pronto, Carlo? Dimmi. Ciao, buonasera. Vai. Niente, io volevo raccontare la storia di una coppia. Inglese praticamente, perché una coppia inglese, non ho capito, l'ho sentita, è passata alla ribalta nazionale perché l'ho sentita per radio sta storia. Allora niente, che dimostra che la donna fa sesso quando vuole mentre l'uomo fa sesso quando può. Allora, nello specifico, non ho capito niente, scusa, spiegami l'esempio qual è, perché altrimenti non... Ecco, nello specifico ti racconto la storia. Sì. Allora, lui era, prima di conoscere questa ragazza, era un tipo alquanto avaro, non spendeva soldi, accumulava tutto. Appena conosciuto questa ragazza, ha cominciato a spendere tutto quello che aveva messo da parte. Lì ad esempio gli chiedeva borse, scarpe. Vabbè, ma sono cose che succedono. Però andiamo al sodo, Carlo. Qui non è che possiamo fare tutta la storia di questa coppia inglese. A un certo punto, lui si è fatto i conti in tasca, ha visto che questa storia non poteva andare avanti così. Così che lì ha iniziato lo sciopero del sesso. Chi? E questa storia, insomma, è arrivata anche ai media. Vabbè, ma allora che vuoi dire con questa cosa, Carlo? Non ho capito. E che lì ha candidamente dichiarato praticamente che il potere delle donne risiede tra le gambe delle donne. Ah, ma no, ma che novità, ma che cosa nuova, che cosa strana. Pietro Caserta, ma non ci rompere le scatole, vai. Pietro Caserta. Ehi, Saule, ciao. Dimmi. Senti, io ti racconto un fatto stranissimo. Tu ti raccontare fatto, dopo me lo racconti che c'è più tempo. Marco, aspetta, dopo, Marco da Roma, vai. Pronto? Dimmi, Giuseppe, Marco, dimmi. Lorenzo, sì, buonasera. Guarda, gli spunti erano tanti, già da ieri sera in linea, e consentimi, visto che ho teso tanto... Marco, mi devi dire una cosa, una cosa chiara, precisa, veloce, quello chiara. Che ti pare, una cosa, vai! Una cosa, allora, guarda, mi riallaccio, sì, effettivamente agli incendi con i gatti. Mi occupo per aspetti forensi, professionali, anche di incendi dolosi, quindi non è... così proprio del tutto, diciamo, strano che si appicchi un incendio con un essere vivente. Il fatto è che giustamente devi questa persona, tu strano che da giornalista non gli hai chiesto il riscontro, cioè ma lui cosa è una ha frase fatto? Che abbiamo preso da un'altra televisione, che sì. Riscontro di che è il responsabile di un parco, ma che dite? Vabbè, Marco, non hai niente da dire, ragazzi, fermi tutti là. Interventi, mi raccomando, dai, forza, su, dai. Voglio Cruciani come sindaco del mio paese e Parenzo come Netturbino. Amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da Assicom. Vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. La Zanzara. Predicatore americano Donny Romero sulla strage di Orlando. Oggi una serata molto americana, Parenzo, dopo Steve Colbert, che dice che è giusto, cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, salvezza per il pianeta, fare la pipì sotto la doccia. È la volta di questo predicatore americano sulla strage di Orlando. Dice di essere contento che siano morti 50 sodomiti. Ma perché non abbiamo personaggi così anche in Italia? Dovremmo fare la zanzara in the States, altro che Donny Romero, spettacolo, ogni giorno sarebbe ospite qui Donny Romero. I'm going to give you some examples, because this morning when those reporters asked me a question, they said, well, you know, you talk about the sodomites, these sodomites in Orlando being killed. And they said, why do you think that's a good thing? I said, because they're all predators and rapists. They're all wicked, ungodly people. Yeah. And they're child molesters. They're evil, wicked people that this world is better off without. Poi, tra l'altro, questo Romero dice una cosa che diceva quella cantante lirica barese che poi si è pentita. Questi dicono delle cose anche a noi alla Zanzara, qui poi si pentono, no? Cioè, dice esattamente la stessa cosa questo Donny Romero, cioè il mondo è migliore con 50 molestatori di bimbi in meno. cioè proprio così ha detto. Io preferisco l'Italia dove certe follie vengono sanzionate. Ma quali sanzionate? Questa qua non ha avuto nulla. Ma che c'entra vengono male, sanzionate? Ma questa male qua è semplicemente una follia. Non è che puoi mandare in galera uno perché dice una roba del genere. Tu mandare in galera no, però ma dai, bella su multa, una bella ammenda. Ma che multa, ammenda? Questo è un pazzo, viene considerato un pazzo, cioè punto come e basta. Come incitazione all'odio. Ma when you have 50 child molesters that are not on Earth no more, look, the world is a better place. She's the one that really get down when she boogie. She do the tube-state boogie. Well, now boogie little baby, boogie boogie all night long. I got a gal, she lives on my block. She kinda funky with a pink and black sock. She likes to boogie. Non è una novità, corruzione al Comune di Roma, arrestati imprenditori e funzionari, giro di tangenti per la gestione dei campi nomadi. Tra il 2013 e il 2014, ragazzi, è una vita che lo dico, che con i campi nomadi c'è gente che ci mangia. Per questo vanno aboliti, per questo vanno cancellati, mica perché siamo contro i Rom, mica perché ce l'abbiamo con no, i Rom, un momento, scusami, perché c'è un magna-magna, c'è un magna-magna generale di persone, certo, occidentali nel senso bravo, di romani bravo, eccetera, bravo, italiani, anche i Rom sono italiani, su questo non c'è dubbio, non c'è dubbio, che speculano sulla natura dei Rom, che non si vogliono dare da fare, non si vogliono dare da fare per fare le persone normali, per fare i cittadini come gli altri, cioè bussare, fare toc toc. Posso affittare una casa? Dice no, sei Rom, sei Rom. Te la prendi con questi anziché con quelli che hanno rubato? No, io me la prendo con quelli che hanno rubato, non c'è dubbio. Però è una, come dire, un'unione di interessi, non so come dire, i ladri e i Rom, cioè i furfanti, chiamiamoli italiani, romani, cioè non Rom, e i Rom che vogliono vivere nei campi Rom dove non pagano un cazzo a spese nostre. Cioè unione di interessi, la gente che ci mangia sopra e quelli che vogliono vivere nei campi Rom a spese nostre. Si mettono insieme e ci fottono i soldi. Gianluca Pesaro, vai Gianluca, vai. Ciao Cruciani, ciao Lorenzo. Dimmi, volevo dimmi ragguagliarvi sulla tecnica del gatto. Sì, in sì, fra poco cercheremo di chiamare questo tizio che l'ha detto, così, no, così chiariamo il mistero dei gatti utilizzati per appiccare incendi. Tu che dici? Hai esperienze? Sì, perché ho un mio amico che fa il vigile del fuoco e quando qui dove abito io a volte succede che vengono incendiati dolosamente dei capannoni. Che succede? Vengono impregnano praticamente il gatto di carburante, no? Di materiale infiammabile. Ma questo dove lo fanno? Anche lì nelle Marche? Sì, sì. Sì, sì, se ti chiama, se puoi sentire un pompiere, un vigile del fuoco, sicuramente conoscerà questa tecnica. Cioè, infatti quando me l'hanno detto tanti anni fa io ho detto no, è impossibile. In realtà con questa tecnica l'animale correndo riesce ad incendiare in più parti. Pensa in un bosco che può arrivare anche 300-400 metri, quindi sì, la vastità dell'incendio è data anche da questo, no? Perché riesce ad arrivare in breve tempo, poi ovviamente poverino muore. Vabbè, dunque tu confermi che vengono sì, sì, utilizzati per appiccare gli incendi? Almeno 10 anni. Sì, no, qualcuno dice addirittura che è una tecnica che risale a 50 anni fa addirittura. Questo non lo so, probabilmente. Se va bene, Giuseppe da Roma, Giuseppe Roma, vai. Ragazzi, se date fuoco al gatto, il gatto è morto dopo 30 secondi. Allora, la tecnica non è questa. Si prende uno straccio o comunque un dei legnetti imbevuti di carburante, con un filo di ferro si attaccano alla coda del gatto, con un giro di nastro si attacca il filo di ferro alla coda del gatto e il gatto scappa e si porta appresso lo straccio imbevuto di benzina e dà fuoco. Se dà fuoco al questo gatto, sembra già più... Questo cioè, non ho capito, come funziona? Ma è che l'hai fatto tu? Confessa. Ma puoi confessare, mica ti denunciamo. Non confesso. Beh, confessi invece, vuoi confessare, no, dai. Non confesso. Vabbè, allora non ho capito, che succede? Come si fa? Pur senza confessare, no, ripeti, così è più chiaro, pur senza confessare. La tecnica è molto semplice, si prende uno straccio, qualunque cosa che possa essere imbevuto di carburante. Sì. Alcol, benzina, quello che vuoi. Lo leghi con un filo di ferro, il filo di ferro con dei giri di nastro li attacchi alla coda del gatto e il gatto scappa perché c'è e si porta appresso questo affare che dà fuoco a quello a cui deve dare. Per cui non è che si dà fuoco, cioè non è che ma si... il gatto dopo 30 secondi si stende per terra e muore. Per cui in realtà lui scappa perché c'ha la coda che si incendia, diciamo, no? No, cioè scappa, no, la coda c'ha dietro una cosa, cioè, no, la coda non si incendia, la scappa perché c'ha dietro una cosa, gli animali hanno paura delle fiamme, quindi se tu attacchi una cosa incendiata... Ah, fil di ferro che con la cosa imbevuta, lui vede una fiamma. E lei come fa a saperlo? Ma perché l'ha fatto? Perché l'ha fatto? Da dove chiama lei che allertiamo la procura? Ma dove no, chiama? Ma Giuseppe, prego, da Roma, dai, si sarà divertito a farlo una volta, vergogna. Ma è una porcheria. Ma cosa vuol dire? Ma, non l'ha detto, vabbè? Non l'ha detto, ha detto non confesso. Ma perché devi dire, vabbè? Ma ha detto non confesso, ha detto non confesso. Giuseppe, confessi o no? Non confessa. L'ha detto in maniera un po', capito, soft, abbiamo capito poco. Dillo chiaramente, non confesso. Non confesso. Non confesso, bene. Marco da Ferrara, vai. Marco, vai Marco, dimmi. Bene, ciao ragazzi. Niente, volevo dire a Sgarbi che dovrebbe, con tutti questi malori ravvicinati, dovrebbe decidere a chiedere i quadri buoni, non le croste che sa anche lui addosso. Non ho capito, tu che chiami da Ferrara e sei interessato al fatto che Sgarbi, siccome secondo te sta per crepare, dovrebbe intestare i quadri a qualcuno, ma me dovrebbe farlo. E secondo me dovrebbe dare le croste a Luigi Negri, il vescovo, invece a Filippo Daverio quelli buoni, che secondo me merita molto più di lui. Vabbè, maestro, sti cazzi, perché li devi... Ma che vuol dire? Ma che vuol dire che dovrebbe dare quelli buoni a Filippo Daverio? Non c'entra perché Filippo Daverio è un'istituzione, lì non sì, c'è, ma lì è non tutto intestato a una fondazione, non so, ma che c'entra adesso? Cioè, questo si è sentito male due volte per un dolore addominale allo stomaco. Adesso tu... Sì, ma non puoi andare avanti. Ma che ne sai tu? Ma che sei il suo medico? Sei il medico di Sgarbi? Non ho capito. No, ma però è troppo agitato, cioè non può andare avanti un pezzo. Ne avrà ma ancora che un... ne sa? Ma che sei il coso tu? Non ho capito. Non ho capito se sono sei... un sensitivo, sono un paragnosta. Sento le cose prima che succedano. Sei un paragnosta. E quindi gli volevo dare questo consiglio. Un paraculo. Pronto? Aspetta un attimo. Pronto? Pronto? Antoci? Sì, chi parla? Buonasera, qui la Zanzara, salve, la disturbiamo un attimo. Ci scusi, pronto? Sì, prego. Salve. Senta, no, abbiamo sentito questa cosa qua sui gatti, no? Sui piromani sì. Che utilizzano i gatti per appiccare gli incendi. Alcuni ascoltatori non ci credono a questa cosa qua. Lei conferma tutto? Guardi, c'è anche della letteratura su questa sì, cosa. Sì, sì, no, lo so, ma siccome lei... Ma come funziona? Ecco, come funziona? A Trapani nel 2006 sono state trovate anche le carcasse. Qui il problema si pone nella misura in cui quando vogliono innescare fuoco senza poi che domani qualcuno possa dimostrare che è doloso, utilizzano queste tecniche. Ah, ho capito. È una tecnica che consente... Ma come? Come loro innescano, mettono l'innesco nella coda del gatto, sì. Il quale corre poi, poveraccio, come un pazzo, prima che prenda fuoco pure lui, e sì. Quindi girando comincia a infiammare varie parti dell'appezzamento del terreno. Ma un ascoltatore prima è intervenuto dicendo che in realtà loro mettono sì. Una specie di fil di ferro attaccato alla coda. Coda. Con un panno imbevuto, cioè non è che si incendia il gatto, non è che prende fuoco il gatto, ma il gatto spaventato sì, dal fuoco. Poi il gatto secondo quando comincia a dare fuoco tutto intorno, poi tranquillamente salta il fuoco e se ne scappa. Ma regolarmente non li trovano neanche i gatti, perché si bruciano anche loro. Ah, ok, ho capito. Hanno trovato anche delle carcasse su Trapani anche nel 2007, ma questa è una tecnica che sì, da un sacco di anni, sì, da un sacco di anni, sì. Che raccontano gli esploratori, che raccontano, non è che è una cosa da adesso, tanto è vero, ripeto, che non riescono poi a provare la dolosità degli incendi. Certo che sono veramente dei pezzi di merda questi qua, diciamo. Guardi, sono assolutamente, siccome noi siamo stanchi, io non so se lei l'ha sentito, noi ci costituiremo parte civile su tutti i processi. Ma ne beccate uno, ogni tanto ne beccano uno, lei è che il presidente del parco... Ogni tanto li beccano e quando li beccano noi saremo là. Sì, ho capito, amico mio, però in Sicilia ci sono. Non è colpa sua, sicuramente. Lei è presidente del Parco dei Nebro, di che cos'è? Ho capito, io sono presidente del Parco dei Nebro da un anno e mezzo. No, non è colpa sua, però in Sicilia c'è stata una marea dei forestali. È possibile che, amico mio, è possibile che non fanno piazza pulita, non vigilano abbastanza tutti questi forestali. Che dice lei? Guardi, i forestali, sulla vicenda dei forestali, ci sono i forestali che lavorano, i forestali che sono licenziati perché erano stati condannati sì. per reati, tra cui anche l'incendio doloso, Guardi, cioè non è che uno può fare la propria parte, io sto cercando. No, d'accordo, ma secondo lei è colpa anche di questi forestali che non vigilano, perché questi incendi vengono appiccati anche dolosamente. Conviene a tutti avere l'incendio. Non anche. L'autocombustione, guardi, non esiste nessuno. Per cui conviene. L'autocombustione scientificamente è una percentuale così bassa, sì, che 50-80 focolai tutti in posti diversi della Sicilia, approfittando di una giornata di scirocco. Cioè, se qualcuno mi viene a parlare proprio di autocombustione, allora vogliamo proprio negare. No, per carità, assolutamente. Parlo per lei. Scusi, parlo qualcuno all'inizio l'ha detto. No, ma quanti forestali basterebbero? La metà di quelli che ci sono, diciamo la verità. No, guardi, i forestali, intanto il numero di forestali, dottore, non è un numero di persone a tempo indeterminato. No, ma lo so benissimo, quanti ce ne vorrebbero in realtà? No, voglio dire, il numero ridotto agli orari normali di lavoro sarebbero circa 6-7 mila. Mi risulta che siano veramente tanti, 20 mila. Appunto, no? Ma quanti ce ne vorrebbero secondo lei? Basterebbero 5-6 mila? Ma per far cosa? No, così per quello che devono fare, per controllare il territorio. Ah, per controllare il territorio. Guardi, io penso di sì, ma anche me questo è un problema, guardi, che dura da vent'anni. Lo so. Questa è gente che è stata ridotta all'interno di questi, guardi, però io voglio dare anche un segnale diverso. Aspetti un attimo, c'è la pubblicità, un secondo. Tra Parenzo e Cruciani non riesco a decidere chi è più cretino. JP Morgan Asset Management vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Aruba Soluzioni Cloud per le imprese, solo su www.cloud.it. La Zanzara. Cruciani, la Boldrini è incazzata nera con Conte. Ma ti rendi conto? Nella nazionale italiana nemmeno una donna. Cazzo. Allora, vogliamo risentire la frase pronunciata da questo signore che è qui collegato con noi, che è responsabile di un parco in Sicilia. Sapete che appiccano il fuoco, non è una novità naturalmente. Ne beccano pochi di questi infami. Ha parlato però di una tecnica che in realtà non è nuova, che è quella di, per sfuggire alla... come dire, alle responsabilità, alle assicurazioni, forse o altre cose, si utilizzano i gatti. Ci sono delle tecniche anche efferate che utilizzano, come quello per esempio di dare fuoco agli animali, ai gatti, a dare fuoco ai gatti vivi e poi li lasciano andare, questi poveri animali che corrono bruciando. Ah, innescare il fuoco con i gatti, capirai. E come si fa poi ad andare a vedere se un incendio è doloso o meno? Non ho capito quanti gatti trovate morti, quante carcasse di animali, Antoci. Allora, guardi, le ripeto quello che ho detto poc'anzi. Ci sono stati casi in cui sono state trovate carcasse, ma la maggior parte dei casi, anche perché, guardi, la tecnica... Io ho citato la tecnica. Un'altra della tecnica candela. Qual è, per esempio? La candela. Per esempio quella della candela, che viene messa man mano che la candela scende, prima che arriva sotto nei rovi, ci vogliono 2-3 ore, questa gente era all'altra parte della Sicilia. Quindi ci sono varie tecniche, fra cui questa. Appare chiaro che quando si utilizza questa tecnica dei gatti, evidentemente non si trovano poi, perché i gatti restano coinvolti nell'incendio. Ma quindi, scusi, ma oltre ai gatti si usano ad esempio anche cani? La mia conoscenza è gatti e conigli. Ah, conigli, pure conigli. Questa è la mia conoscenza. Pure conigli, poveri conigli. Questo è quello che dicono, diciamo, nei territori gli allevatori e coloro che sanno. Poi ripeto, sono state trovate degli esempi anche nel trapanese, come le dicevo prima. Però ci sono varie tecniche, fra cui c'è questa della candela. Insomma, quella della candela, però, veda, è un po' più rischiosa. Diciamo loro, che chi lo fa forse meriterebbe di essere, di fare la stessa fine, forse, no? Di scappare col fuoco dietro. Che dice? Io guardi, le ripeto, io mi sono indignato dal primo giorno perché qualcuno ha cominciato a parlare di autocombustione e quant'altro. No, però dico, chi fa questa tecnica qua meriterebbe di essere preso così, di essere anche lui, no, incendiato. Guardi, quasi. Chi fa questa tecnica, chi usa queste tecniche, comunque chi dà fuoco e fa rischiare la vita alle persone, la vita alle persone, chi rovina secoli di biodiversità, no, sono andati in fumo, alberi monumentali. Vabbè, m'ha messo in galera e buttata la chiave, su, dai. Guardi, ragazzi, è una cosa veramente che io non riesco neanche a commentare. Va bene, grazie, ciao, arrivederci, ciao. Prego. Ciao. Allora, ragazzi, dove andiamo? Andiamo a Massimiliano, Roma, vai. Cruciani, vai, dimmi Massimiliano, dimmi. Senti una cosa, mi devi dire, che senso ha avvertire la Procura della Repubblica o le forze dell'ordine per quello che ha detto ieri l'arabo Alan, ma detto anche per... Anal, detto anche Anal, senso, ma non ha nessun senso, io non avverto nessuno. Certo, no, uno non è che dice telefono, io spero che qualcuno lo senta e lo denunzi, perché ha senso quello, ha detto che picchia la moglie. No, non ha detto che picchia la moglie, non ha detto. Adesso riascolta la telefonata, perché Cruciani è bravo. No, non ha detto che picchia. No, io ho detto tu ammazzeresti la moglie, ha detto di sì, scusa, cioè se tua moglie ti tradisce, la ammazza, no. Ma che cazzo stai a dire? L'hai fatto di te. Ma lo vuoi riascoltare, Massimiliano? Massimiliano, lo vuoi riascoltare o no? Ma vediamo se l'ho detto io. Tu sei un mago a far dire hai fatto pagare. Io non sono un mago, sono fatto pagare all'avvocato di Costa Bono, dai. Sta buono. Ma Massimiliano, sta buono un cazzo, scusa. Riascolta e vediamo se io l'ho estorta io questa cosa qua ad Alan. Poi non è che sia un politico, Alan, è un ascoltatore che è intervenuto. Alan, detto Anal, sentiamo. Se la donna ti tradisce, che fai tu? Se tua moglie ti tradisce? Sono affari miei, poi lo saprai. Ma che succede? Dimmi se tua moglie ti tradisce. Ma no, io ho scelto una donna che non potrà mai tradire. Ma ammetti che ti tradisce, che succede? Morirà, ecco. Come muore? Come muore? Ma che dice? Ci penso io poi, alla mia maniera. In che modo, scusa, la ammazzi? Ma non te ne preoccupare, te. La ammazzi? Beh, però se, sì, perché siamo in Italia veramente, qua. Se tu sei un uomo. No, ma fammi... Uomo, io sono un uomo, certo. Tu sei un uomo? Sì. Ma io ho seri dubbi. No, tu io sono... la tua... Vero che tu sei un singolo, non te ne frega niente del matrimonio. Sì. Non ti sposerai mai. Non accetti... cioè, per te certi e allora valori, non ho capito. Per te non esistono. Allora, tu sei un animale nato, no? Va bene, ma può darsi pure che sia così. Ma tu invece becchi tua moglie che ti tradisce, che fai? L'ammazzi? L'ammazzo. Non mi pare che di avere storto nulla, Massimiliano, scusami. Ma dai, l'ammazzo, vabbè, ci penso io alla mia maniera, morirà. Ma che vuoi? Ma quello per provocazione, a Cruciani. Ma non mi pare proprio, Tahir, ma Massimiliano, ma no, davvero in questo caso non c'è nessuna provocazione. Parlava seriamente, era un islamico, un musulmano. Tra l'altro aveva già chiamato anni fa, mesi fa. Tahir, Salerno, eccone un altro, va. Buonasera a tutti. Dimmi Tahir, dimmi. Ha un grande shalom di cuore a mio fratello parento. Ciao, fratello. Tahir, salam, allora, salam aleikum. No, ragazzi, ma se dovete andare in moschea non ci rompete i coglioni qui. Andate in moschea non ci rompete il cazzo. Questa è una radio multietnica, come ti ricorda Tahir. Davide è mio fratello. È una radio che accoglie tutti, ma che non è certamente multietnica o multiculturale. Multietnica e soprattutto è una radio che ha a cuore la diversità. Questo è il punto, cioè esalta la diversità, le diverse, va bene. Ha questo spirito, infatti ospitiamo anche te, esatto, infatti bravo. Ci sei anche tu come emblema della diversità. Esatto, vabbè, bravo. Tahir, che cazzo vuoi, dimmi. Sì. No, ma perché io ho un tempo di tempo che ascolto la trasmissione, sì, dimmi. E ogni tanto dimmi, capita, fratello, che diciamo ti parla dei islamici, dei musulmani, dimmi fratello, dimmi, quota, no? Dimmi. No, allora, è fratello tuo. A me, diciamo, per me è una quota normale, non è che... Cosa è normale? Lo ascolto, allora io cerco di imparare qualcosa. Vabbè, Tahir, che vuoi dire? Andiamo al sodo, vai. Voglio intervenire quando vedo una cosa che è grave. È la telefonata di ieri, ma è una vergogna totale. Sì. Bravo. Sono rimasto è una vergogna, è l'Islam, parole. Ragazzi, è l'Islam. No, non è. Che cos'è? Scusami, Giuseppe, io sono non musulmano. Ma tu sei musulmano, ma evidentemente della donna, ormai sei in Italia non so da quanti anni, Giuseppe, hai un'idea della donna diversa. Io sono musulmano, però interpretazione che ha fatto quel ascoltatore ieri, no? Allora io non conosco questo tipo dell'Islam. Sì. Se era una cosa, anche il minimo di quello che diceva lui, no? Io da quel momento in poi non dico che sono un musulmano. Vabbè, ma Tahir, tu di fronte al tradimento di tua moglie, che fai? Sei sposato? Sì, io sono sposato. Se tua moglie ti tradisce, che succede? Allora, normalmente bisogna parlare insieme, convincere che un rapporto, un matrimonio, un accordo... Bisogna portare avanti. Se poi le cose non cambiano, allora ognuno per la sua strada, è libero di fare le cose. Vabbè, non l'ammazzi come l'altro. Tahir, ciao. Giuseppe Pordenone, vai. Sì, non sono da Pordenone, però sono da Padova. È uguale, dai, vai, dimmi. Io volevo dirti, Beppe, che una sera stavo fumando la sigaretta in terrazza, ma ancora di un po' di anni fa, e ho pisciato giù dalla terrazza. E vabbè, d'accordo, stavi fumando. Normale, da quando governa Bitonci è normale che succeda questo a Padova. A Padova, sì. Non ho capito, Giuseppe, tu stavi fumando una sigaretta, poi ti scappava la pipì e hai pisciato sotto, ma dove, che c'era sotto? C'era un giardino, una strada? Pratica, che io vivevo, una B familiare, che sia sopra che sotto era di proprietà della famiglia, quindi io stavo sopra e sotto non c'era nessuno. Vabbè, cioè, non ho capito, Giuseppe, qual è la curiosità di questa cosa. Hai pisciato a casa tua, nel giardino di casa tua. Non ho capito qual è la curiosità di questa cosa che hai pisciato. Perché sentivo gente che diceva che pisciava anche dalla finestra o sul lavandino. Vabbè, Giuseppe, arrivederci. Diego da Roma, vai. Eccoci, ciao, buonasera Cruciani. Dimmi. Io andiamo per gli incendi dolosi, testimone oculare, non solo i gatti, ma soprattutto i conigli, che sono più veloci. Ma perché testimone hai fatto pure te una cosa del genere? No, testimone oculare. Non è che uno può essere testimone, che vuol dire testimone? Testimone significa che io ho visto persone che lo facevano, fantastico, stupendo, meraviglioso. Ma perché meraviglioso? Non ho capito. Meraviglioso perché aspetta, vedere questo coniglio che preso dalle orecchie, no? Quindi ha messo dentro al secchio. Ma lei è un sadico schifoso. Direi di sì. No, non ho capito. Hai preso questo coniglio dalle orecchie? Dalle orecchie, immerso dentro al secchio della benzina, da monte. Okay? Mamma mia. Si prende e si fa scendere giù e via, uno dietro l'altro. 5 o 6 e incendiati. Via. Incendiari, cioè come, come palle di fuoco. L'unica cosa che dicevo era incendiare è sbagliato, secondo me. Ma non vai, Diego, tu ci stai a raccontare una cazzata, dai, su. Non è che... No, non è vero, è la verità. Ma chi erano questi qua? E dove sarebbe successo? In provincia di Terni. Ma questi sono amici tuoi, questi qua? No, non erano amici, ero ragazzino, ero piccolo. E dicevo, secondo me non è giusto incendiare. E da piccolo dicevi che non è giusto incendiare, dai, su. Bello. Quell'altra cosa del coniglio non mi dispiaceva, non mi fregava niente. Cioè, che cos'è il coniglio? Adesso lei nella vita cosa fa? Il serial killer? Cosa fa ora nella vita come professione? Che del serial killer fa? Ascolto la zanzara. Ascolto la zanzara. Appunto, quindi commette un crimine. Va bene, appunto. Diego, ciao. Allora, ragazzi. Ragazzi, cazzi, primi cazzi per Virginia Raggi, perché pare che voglia nominare un assessore all'ambiente che sembra favorevole agli inceneritori. Giustamente da Parma, dove hanno rotto i coglioni a Pizzarotti per anni su questa cosa qua, l'assessore all'ambiente di quella città, cioè di Parma, che si chiama Paola Muraro, anzi no, l'assessore all'ambiente di Parma, critica Paola Muraro, che è questa che deve essere nominata a Roma, scusate i giochi di parole, perché dice, scusate, ma è una inceneritorista, andate a cagare. Cioè, fatemi capire, la Raggi avrà un assessore, lo Cicero, che pare che sia favorevole alle Olimpiadi, che l'abbiamo sentito ieri, non sulle Olimpiadi, ma su questa questione del Frocetti, e poi una che è a favore degli inceneritori, Francesco da Roma, vai. Ciao, buonasera. Dimmi. La cosa sola, ho sentito questa Paola, inceneritrice di qua e di là. E sta cosa dei conigli, dei gatti, ma perché non usano pure a Roma questi rom? In che senso, scusami? Eccolo, visto, maledetto. Questi problemi, queste cose. Mi dici pure che sono italiani. Come fai a dire che sono italiani? Quelli non c'hanno una nazione. Non ho capito, scusa. I rom, molti rom sono italiani. Secondo? No, ma secondo il passaporto che hanno, cioè secondo la cittadinanza secondo, che hanno. Okay, cioè non è, okay, ma non è, okay, una, okay. Non è che uno salva i rom per questo. Uno è ladro. No, cioè. Infatti non li voglio salvare, esatto. No, li vuoi bruciare tu? No, non tutti. Quelli che sono da bruciare. E chi sarebbe da bruciare, scusami? Ma lo sai, quelli che stanno al semaforo, quelli che ti rubano i soldi, quelli che rubano i rami. Cioè, questi qua che faresti? Li bruceresti? Coi conigli, fantastico. Li bruceresti con i conigli, vabbè. Lei cosa fa nella vita, scusi, criminale? Io cerco conigli, c'è un allevamento di conigli, per questo. Dai, Francesco, non fare cazzone, dai, forza. Mi sembra un'idea fantastica. Che cosa fai nella vita? Studente, che fai? Nulla. No, io coniglio. Disoccupato. Vabbè, sei. Vabbè, il coglione, sì, il coglione, l'abbiamo capito. Un altro Francesco da Roma, vattene, vai. Francesco da Roma. Pronto, Cruciani? Dimmi. Senta, io l'ho chiamata proprio per i rom. Sì. Sento un brutto ritorno, però fa. No, io sento benissimo, parli e non ci rompe coglioni. Sì. Il problema è che lei non è arrivato al precedente ascoltatore, però ha fatto un accostamento terribile, indecente. Mi scusi, glielo dico con sofferenza perché non mi piace insultare la gente. Lei ha detto diverse volte ladri e rom. No, non hai capito ancora cosa diceva, non hai capito nulla di quello che diceva. Adesso se vuole, non mi faccia il politicante con rispetto a quanto. No, non hai capito nulla di quello che dicevo. È come dire pedofili e omosessuali, è un accostamento. No, non hai capito nulla di quello che dicevo. Se si crede e chiede scusa, va bene, però conferma tutto, ma non faccia il politicante. Conferma tutto, ma che? Ma di che stai parlando? Un locale pubblico, le potrebbe mettere un'insegna sopra, qui è vietato l'ingresso a ladri e rom. Non hai capito ancora, Francesco, ma scusa. Non hai capito nulla. Ho detto un'altra cosa. Ho detto che c'è nella vicenda, siccome sono stati arrestati oggi degli imprenditori a Roma per la storia della gestione dei campi rom italiani, anzi mazzetta, romani, ho detto romani. Che c'è una sorta di intesa tra i ladri, in questo caso questi qua arrestati, e i rom, chiaro, che abitano nei campi nomadi. Non perché c'è nessuna intesa, ci sono alcuni criminali. No, ma intesa, interessi comuni, interessi persone. Comuni. L'interesse del rom non è di vivere in mezzo all'immondizia. Ma come no? Vivere nei campi rom a spese nostre. Comunque a spese nostre, se non nei campi rom li dobbiamo regalare la casa, cosa che non si può fare naturalmente. Non vuole regalare niente, sono delle baracche che sono state. Va bene, Nicola, provincia di Salerno, dai. Non sono state regalate nessuna casa. Grazie Cruciani, buonasera a tutti. Dimmi Nicola. Chiamo per quanto riguarda la questione dei sobborghi di Napoli, delle zone periferiche degradate di Napoli, che tu hai detto che bisogna chiuderle sostanzialmente. Scusa, amico mio, il garante dell'infanzia, il garante dell'infanzia ha detto in Campania ci sono zone dove l'incesto è la normalità. Allora, e ha detto il quartiere Salicelle ad Afragola, quello di Madonnelle ad Acerra, Caivano con i fatti che ben conosciamo. Allora, questi quartieri qui dove dicono che ci siano incesti, 200 casi di abusi sessuali nei confronti di minori, cosa bisogna fare se non chiudere tutto? Circondare servizi sociali con gli incesti, dai su. Nicola, dimmi. Mi vanno tolti i bambini e le famiglie. Posso parlare? Vai Nicola, dimmi, dai. No, perché abbiamo perso tempo, tu sei sempre di fretta, abbiamo fatto solo le premesse. Sì, ma decidi tu, che decidi tu quanto decidi tu quanto devi intervenire. Nei sobborghi di Napoli. No, poche volte, ma che c'entri? Io sto a quello che ha detto. No, si capisce l'approssimazione del tuo approccio. Sì. Lì ci stanno bambini che sono bellissimi, mia moglie. Ma chi dice il contrario? Ma chi dice il contrario? Fammi parlare gentilmente. Mia moglie ci ha insegnato, sono bambini bellissimi. Ma chi dice il contrario? Ci manca un'alternativa alle persone che abitano in quei posti. Tu gli dovresti dare non il reddito di cittadinanza, il reddito di residenza. Ma cosa c'entra perché questo qua con l'incesto? Vivere, di essere trattati come esseri umani. Lo Stato non è lo Stato, la scuola non è la scuola, la strada non è la strada, l'ospedale non è l'ospedale. Se là non c'è niente, non è come quelli che tu stai nel deserto e dici oh lavatevi, perché no, se tu stai nel deserto non ce l'hai l'acqua. Scusami Nicola, però caro amico mio Nicola, sì la d'accordo. Devi dare a tutti, allora ti faccio vedere che cambiano le cose, perché questo è quello sì, che manca. Sì, va bene, d'accordo Nicola, la solita cosa, le possibilità. Non tutte, è una solita cosa, perché lì ci vuole poco. Tutte ci parole poco, generiche. Farci il minimo di quello che dovrebbe essere in un paese civile. Sì, va bene. Sempre lamentele, sempre vittimismo. Sempre vittimismo. ottimismo. Chiamano dall'altra parte perché è più comodo, perché lì adesso che è successo l'incidente sembra che si capisce. No, che Nicola, scusami, tu vuoi fermare? No? Fermati un secondo, fermati un secondo. Allora, la questione è... Cosa, è l'unica cosa che c'è lì, perché c'è la droga e la prostituzione. E cosa c'è? Ma cosa c'entra con l'incesto? Cosa c'entra con l'incesto che dice che è la normalità? Tutto il degrado che c'è lì. Ah, il degrado porta all'incesto. Ma tu sei bagato, alla in testa. La vita sociale squallida che c'è, sì. Perché lo Stato non c'è. Sì, e uno va coi figli, e uno va coi figli, e uno va coi figli, ma dai, su. Tu dai per scontato a casa tua, là non ci sono. Ma cosa c'entra con l'incesto e con gli abusi sessuali? Cosa c'entra? Perché il degrado sociale inizia dal degrado fisico, proprio urbano, civile. Se tu lì non c'è niente, non c'è niente, alla fine li fai diventare... La colpa è dello Stato, l'incesto è colpa dello Stato, dai, l'incesto è colpa dello Stato, vabbè, ho capito. Non è colpa, ma tu non puoi fare come hai detto tu, che ti giri dall'altra parte è più comodo. No, io voglio chiudere tutto, figuriamo. Va bene, ciao amico mio, ciao, ciao. Va bene, ciao. Dove andiamo? Matteo Bellinzona, vai. Matteo Bellinzona, Svizzera. Buonasera, Cruciani. Switzerland, Switzerland. Switzerland. Canton Ticino, Canton Ticino, vai. Ma sono italiano io. Beh sì, Matteo italiano, parli italiano. Sì, dimmi. Cruciani, io la stimo. Certe volte, anni fa, mi ha messo pure i violini quando parlavamo di Silvio Berlusconi. Bene. Però adesso non riesco a capire, perché da un po' di tempo veramente utilizzate un linguaggio... Troppo pesante. Secondo me quelli dello Zoo di 105 sono delle pippe in confronto a voi. Sì. Sono diventate delle pippe. E come chi? Mai? Chi? Questo, non ho capito chi? Modo? Chi? Non ho capito che sono diventate... Quelli dello Zoo di 105 non sono nessuno in confronto a voi. Noi siamo oltre tutto. È una discussione ridicola che non prendo nemmeno in considerazione. Matteo, ti saluto. Ciao, ciao. Mastella d'Italia, l'Italia se desta. Clemente Mastella con noi. Buonasera. Buonasera. Sindaco. Lanzaroni. Sindaco, come andiamo? Grande, sindaco. Bene. 62%, amico mio, c'è chi te voleva 63, morto. Uno in più, aumenta. Ah, 63. C'è chi te voleva tu morto. Clemente Mastella è del segno zodiacale dell'acqua. Come me, Vabbè, che c'entra questo? No, questo qui è l'anno dell'acquario, quindi l'anno della... Ma chi te l'ha detta sta cosa? I cinesi? Chi te l'ha detta sta cosa? Lo sapevi, Clemente? Lo sapevi? Sì, è l'anno dell'acquario, della grande risposta. È l'anno dell'acquario, ma il mago Telm, so che mago è, sa lui, e quindi io mi fido di lui. No, ma perché? Che ti ha detto Telma? Che saresti diventato sindaco? Ma mago Telma ha sempre detto che l'avventura sarebbe stata benevola con me. Nel prossimo anno è stato così. Senti, ma adesso c'è la pubblicità perché sei arrivato in ritardo. Sì. Ma se mai dovesse esserci un Benevento Napoli, per chi fa il tifo tu? Ma guarda, io la verità. Quando il Benevento in B e rimane in B, e tipo Benevento in B e il Napoli in A. Vabbè, ho capito. Napoli Benevento Mi auguro che il Napoli vinca il campionato e il Benevento possa anche fare risultato positivo. Vabbè, ma sei sempre democristiano, non c'è niente da fare. Fermo lì, fermo. Cruciani, si è innasciato, una doccia ogni due giorni, ma sei pazzo. La Zanzara. Benevento, ecco qua. Capito? Clemente? Capito. Ma com'è che fa Clemente d'Italia, l'Italia sedesta, dell'Elmo di Scipio se cinta la testa. Bella idea questa qua di fare Clemente d'Italia. Senti, ma tua moglie è contenta? Ma poveretta, più che contenta, insomma, dopo tutto quello che abbiamo passato, è una forma di... Ma non voglio dire rivalsa, cioè come una specie di liberazione, insomma, un magone che ti porti dentro. Ho capito, però contenta, no, tua moglie? No, pensa a un incontro... a un incontro clemente con il sindaco di Napoli De Magistris. Ma lui ha detto che non vuole nulla, non ha nulla a che fare con Mastella, così ha detto De Magistris subito. Così. Allora, è un caffone istituzionale, quindi conferma la caffonata. Cioè, perché tu dici, tra sindaci uno si dovrebbe anche, no? Dovrebbe anche avere un po' di rispetto, dici, no? No, il rispetto della città rispetto all'altra città, tu rappresenti la città, quindi essendo un caffone lui non si rende conto. Quindi è un caffone istituzionale, per cui... Ma tu lo vuoi incontrare? Città, tu lo, lo vuoi incontrare o no? No, io non ho la minima voglia di incontrarlo, immagino un po', mica è... E quando, dire, vai, quando vai allo stadio a vedere il Napoli? Mica Brigitte Bardot, allo stadio lui sia da una parte sia dall'altra, mica siamo vicini. Ma lui poi è veramente tifoso del Napoli, De Magistris o no? Boh, che io sappia no, ma sono imbrogli su tante cose, ho imbrogliato pure su questo. Ma dell'Inter. Dicevano che era dell'Inter, Comunque, sì, è incredibile sta cosa. Uno diventa sindaco e cioè gli chiedono di Mastella e non voglio avere... Scusa, potresti dirgli incontriamoci, why not? Questa non è male, incontriamoci, why not? Sì, incontriamoci. Mandagli un messaggio. Lui sono why not, hai capito? Vabbè, ma alcuni rimangono sempre lì. Questo non l'ha capita nessuno. Senti, la pernacchia di Salvini non si è sentita bene, però. Why not era l'inchiesta, per chi non l'ha capita, ecco, l'inchiesta che condusse oggi. Com'era? Com'era? Ma questa non è una pernacchia vera, però. Falla... eccolo, questa. L'ha fatta io. Lombardo Salvini, Lombardo Salvini. No, ma com'era? Falla bene perché non l'abbiamo capito. Ragazzi, la rifaccio pure una volta. Ma quella sembra una scoreggia. Storico. Non lo so, si mette la mano vicino alla bocca e si mette un suono e il suono si chiama pernacchio. Questo chi lo faceva? E chi lo faceva? Facevano i sanniti quando sconfisse i romani a 321 avanti Cristo, facendoli passare vicino Ceppaloni dalle parti mie sotto il gioco i romani. Comunque gliene dette di tutti i colori in questi giorni a Salvini. Io non voglio sembrarmi conoscente, sono una persona mite. Sì. Io ho replicato alle insultaggini in cui ogni sera andando da una parte all'altra di ogni telegiornale diceva Mastella non c'entra, non voglio un centrodestra con Mastella. Mastella così, azzo, io vinco a Benevento, tu perdi a Varese, metti a favore lezione a me. Cacci lezione vuoi dare a me? Ma quale lezione? Questo glielo ho detto ieri. E lui al sud non mette becco perché la gente lo tiene sulle palle a sto Salvini, politicamente lo tiene sulle palle. Cioè a Benevento, se viene a Benevento che succede? Se viene a Benevento, noi siamo ospitali, ma vabbè, quello insomma, certo. Ma scusa, fai un cartello città desalvinizzata. Bello, bellissimo, bellissimo. Ma guarda, è un'idea ragazzi, mi avete dato città desalvinizzata. Bellissimo, ti ho dato la grande voglio fare il responsabile della comunicazione gratis del comune di Benevento. Guarda, come ti tieni in parola. Beh, guarda che quando è gratis lui ti tiene in parola, ti tiene in parola. Tu mi chiami, io ti do due tre idee ogni tanto, gratis, perché non posso prendere compensi dall'amministrazione. Allora, però mi devi promettere che devi fare il cartello comune desalvinizzato. Comune non desalinizzato, comune desalvinizzato. Desalvinizzato. Esatto, desalvinizzato. Però scusa, tu dici che lui praticamente è un mezzo leader, gli hai detto un mezzo leader. Mezzo leader, sì. Ma perché mezzo leader? Ma Bossi era leader, che capivi intelligentemente che era una parte della coalizione. Lui invece vuole essere il leader della coalizione. Ma tu te immagini della coalizione Salvini? Che succede? A parte il fatto che quella coalizione non c'entro mai. Proprio non esiste proprio. Ma dico, ma come fa ad essere leader Salvini della coalizione? Ma secondo te l'inizio della fine questo di Salvini, che non è salito molto? Secondo me sì, è andata male. Al di là, dice, poi ha vinto là, Cicino, tu cacchi ha vinto, non lo so. Sì, a Cascina, a Cascina. Santa Rita da Cascina sarà. Questa è come la DC, ti ricordi? Sarà Santa Rita da Cascina, non Cascia, quindi sarà pure una cosa un po' eretica. Santa Rita da Cascina, la via Cascina. Mi ha fatto il miracolo là, Santa Rita da Cascina. Comunque oggi mi hanno detto che sei andato dal vescovo. Bisogna sempre rendere omaggio ai vescovi in questi qua. Io sono cattolico. Sempre rendere omaggio ai vescovi. Ragiono istituzionalmente. Sono a proposito di cattolici, ma scusami, Clemè, perché non fai una bella moschea a Benevento? Bellissimo. Moschea a Benevento? Perché no? Già ci sono come le zanzare, ma una moschea. Perché? No. Cioè, perché la moschea? Ci saranno i musulmani a Benevento, no? Sì. Ma sì, ci saranno anche pochi, però sono. Pochi, non vale, no, non vale pregano, la pena. Pregano, è giusto che preghino pure loro. La moschea a Benevento, no? La fanno. Ma me l'ha chiesto al signore di prima, quindi non lo so se lo chiederanno a me. Senti, ma tu che macchina usi? La mia? Che macchina hai? Io ho una macchina, un Audi. Un Audi, usata, ma non è che adesso quanto prendi di indennità da sindaco? Quanto prenderai? Ho rifiutato l'indennità da sindaco. Vabbè, grazie, prendi quasi 10.000 euro di vitalizio. Oh, ma sono cazzo mica, solo che i soldi che prenderei che mi toccano, sì, li do per, che sono 4.000 euro mensili, li do facendo un fondo per povera gente, altri, insomma. Ma questo è buono, cioè tu prendi il prendete, no? Dei magistri, dei pigli, soldi, Sì, dei magistri, dei pigli, quello senza quelli come fa però a campare? E come fa? Oh, come fa? È un'aspettativa la magistratura, come fa? Tu c'hai io tengo 6 nipoti, ragazzi. E ho capito, ma c'hai 10.000 euro di vitalizio. Come fa lui? Come faccio io? Ma c'hai 10.000 euro di vitalizio però. E che devo fare? Mi voglio togliere pure quello, non mi piglio la cosa, utilizzo la macchina mia, non utilizzo i cosi telefono al comune, non utilizzo un cacchio. E ma volete che qua per cacciare le mosse pure a voi, vado alla Caritas pure io. E che cazzo? Vabbè, la Caritas con 10.000 euro adesso. Ho capito, ma li spendo. Ma che ti servono? Sei nipoti, tre figli, di cui una ragazza adottiva. Insomma, volete farmi fare? No, per carità, però. Ma sposare pure. Ma scusa, pensano di tagliarli questi vitalizi adesso, Sì. Se li tagliano, se li tagliano, li tagliano, che devo fare? Ma tu sei uno di quelli che va ai matrimoni a fare regali agli elettori? La faccio a quelli che sono amici o figli di amici, sì, ma non vado dappertutto, non ho mai fatto. Cioè non fai i soliti matrimoni, come si fa, no, ai matrimoni a fare cose così? No, se poi non è una cosa seria, no, crisi, non facevo poco, ho fatto 3 o 4. Durante la mia attività parlamentare di tantissimi anni, 40 anni, ho fatto 3 o 4. Comunque lo sai che ti dico, tu hai detto i vecchi, questa storia dei vecchi, su questa storia dei vecchi hai perfettamente ragione. Cioè, non conta uno è vecchio e giovane, dipende da quello che dici. Certo. Cioè, che cazzo c'entra che uno c'ha 60 anni, 65, 70 anni? Ma perché non fai una grande giunta, ad esempio, tutta democratica? Recuperi Paolo Cirino Pomicino e lo fai assessore al bilancio, sarebbe meraviglioso. Questa è l'idea di Parenzo, senti. Pomicino al bilancio. Poi si può riprendere qualche vecchio democristiano saggio che ancora è in giro e rilanci davvero i vecchi, i grandi vecchi della politica. Pomicino, vabbè, questa mi sembra una cazzata. No, poi metti ai trasporti signorile, vecchio ministro socialista, signorile. Bellissimo. Cioè fai una giunta della Prima Repubblica. Sì, un piccolo laboratorio, Benevento, un piccolo laboratorio. No, vediamo. Ma per esempio tua moglie potrebbe fare l'assessore? No. No. Hanno tentato di dire una cosa dicendo: ah, ma Mastella se va a Roma a fare il senatore, da eletto da sindaco, la moglie fa, rimane qua. Non esiste, non c'è. Ma senatore che vuol dire? Mica sei senatore? No, non sono, no, per la legge nuova eventualmente, per il referendum che... Ma no, vabbè, ho capito, quella è un'altra cosa, ma no. Ma sì, mia moglie no, mia moglie fa la nonna, fa le cose. Adesso questo paragone che hai fatto con la Clinton, no? Con la famiglia Clinton, tu ti senti veramente come uno dei Clinton? No, io ho detto, guarda, non come i Clinton, pari fatto in sede come Bill Clinton, non come la... come Hillary, no, certo, vabbè, Bill al massimo. Io ho detto... Spero non per la cosa... Il candidato mio alternativo amico aveva 41 anni, dice, ah, vedete, Mastella tiene l'età, è vecchio, cioè, dice, scusate, ma la Clinton in America tiene l'età mia, e nessuno rompe le palle dicendo che età tieni. Trump è più anziano di me, Sanders, che ha rischiato di vincere anche lui, tiene 75 anni e rompete le palle a me per sindaco di Benevento. Ma no, vabbè, ma è Salvini che... Ma nessuno ti ha rotto le palle. Cioè, è Salvini che dice che tu non c'entri niente col centrodestra, siamo una specie di ferro vecchio. Quello ha detto. Ma il problema è che non c'entra mai con lui col centrodestra. La parola centro per lui è come il rosso per il toro. Ho capito, però. Ho capito benissimo. Vabbè, ma Clemente... poi non so manco se è la destra. Lui è, non lo so. Come lo definisci Salvini? Ma com'è? Ma è ignorante secondo te Salvini? Com'è? Una bestia. Quando... Non mi pare che abbia una grande intelligenza politica. Non una grande intelligenza politica. No. Comunque, guarda che 9.000 euro sono so tanti, 9.604, sono tanti. Di vitalizio, sono tanti, sono tanti. So come? Sono tanti 9.604 euro. Scusate, ma perché chiedi a Salvini quando guadagna lui in Europa? Perché chiede da me euro? No, ma adesso te lo sto chiedendo. Ma perché... io 40 anni, ragazzi, 40 anni. Ho capito, 40 anni, ma i contributi ve li siete decisi voi, Clemente. Ma poi non so te, non sono da, sono 6.000 che peggio io, non ti sto te. 9.604. 6.000? Ma quelli saranno... sono 6.005, 6.006, no? Quello è quello del Senato. Vabbè, c'hai tanti nipoti. Come? C'hai tanti nipoti. Ma sono 6.000, non sono 10.000. Ma no, poi c'è un altro, un cumulo ci sarà di qualcosa. Ci sarà un cumulo, che non lo sai quanto guadagni. Cumulo nembo. Senti, ma come hai festeggiato la notte? Hai fatto cose con i miei amici. Cose pazze ne hai fatte, cose pazze. No, abbiamo soltanto, siamo andati ad aprire la porta del comune simbolicamente. Vabbè. Clemè, ti saluto, va. Ciao. Ciao caro. Ragazzi, ciao. Mi raccomando, mi raccomando. Mi raccomando, non te fa arrivare qualche avviso di garanzia. qualche avviso di quello, dai, all'ordine del giorno. Amico mio, i sindaci, so cosa, chi te l'ha fatto fare, so cazzi. Quelli te li mandano anche quando non te l'aspetti, e quando te l'aspetti te mandano ancora. Che può fare? Che può fare come sindaco Mastella, David? Che può fare una cosa nuova, una cosa, dagli un suggerimento, qualcosa di eclatante. No, secondo me dovrebbe rilanciare la Prima Repubblica attraverso l'assessorato. Questo sicuramente, io davvero non è una battuta, pomicino al bilancio. Vabbè, ma questa signore... è una cazzata che hai detto. Il Gay Pride, no! Il Gay Pride a Benevento, ma che no, dici? Ma perché fai il Gay Pride a Benevento? Ma stupendo, no, ma no, deve rilanciare la, ma gliela dai comunità, l'autorizzazione se facessero il Gay Pride a Benevento, Mastè? Clemente? Ma l'autorizzazione, ma... no, non so, ma che la devono fare a Benevento? La fanno da altre parti, perché devono proprio a Benevento? E vabbè, a Gay Pride. E vabbè, che c'ha? È un po' di culi fuori, un po' di piume, un po' di... una cosa così un po' pacchiane. Volgare, dici, volgare. Esatto. Cioè, volgare. Bisogna rispettare i sì, gay, questo è giusto. Vabbè, quello di rispettare i gay, anche hanno doveri anche loro, però le cose così, però Gay Pride no, Gay Pride no, no patrocinio, è troppo una cosa un po' così da sconcia. Metti, ma è sconcia perché insomma non vedo più il senso, non ne capisco il senso. Metti che passano i bambini là, vedono la gente col culo di fuori. Sì, mi pare, non, cioè, ripeto, grande rispetto. Sì, però ti fa un po' schifo il Gay Pride, diciamo la verità. No, non l'ho detto. No, il Gay Pride, la manifestazione. No, no, no, cioè, no. Non mi piace. Non ti piace, no. Dunque, a Benevento no, non lo faresti. Vabbè, ciao Clemente, ciao. Vi saluto. Ciao. Datemi un'ora d'aria, datemi la zanzara. La zanzara. Sarà pure una pazza da legare, ma quando io sento l'Oresta Vicenza, io mi arrapo. Allora, Mustafa da Milano. Mustafa, vai. Sì, ciao, chi è? Cruciani? Dimmi. Ah, sì, no, niente, ho chiamato perché volevo dire che aveva ragione quello che... cos'è? Islamico, lo chiami? Sì, aspetta, amico mio, però devi toglierti il viva voce, non so che cos'hai, l'auricolare, se no non capiamo. No, sono amico tuo, sì. No, non sei amico mio, è un'espressione, amico mio, anch'io non sono amico tuo, vai. Sì, no, niente. Allora, ti dico, io ho chiamato dicendo che volevo intervenire per dare... per dire che aveva ragione il tizio, quello lì, mezzo pazzo, scemo, che ha chiamato prima, che ti sta bene a te, perché a te ti cade insomma benissimo, perché ti dà, ti fa fare la figura di merda ai musulmani, che ovviamente è una linea guida che porti te per far fare la figura di merda ai musulmani. Dunque, ma questo lo dici tu, questo no, lo no, dici lo dico io, perché se mi fai parlare senza interrompere, come fai? Ho detto semplicemente che lo dici tu, A livello che ti va bene a te per sì, farti da parla. Allora io ho chiamato il tuo centralino, ho detto io devo chiamare, intervenire per dire che il Corano dice quello che ha detto il tizio lì, insomma, una cazzata che ho detto. 5 minuti mi ha richiamato e sto parlando in diretta. E qual è il problema? Succede sempre così, anche con gli altri. Succede così anche con gli altri. I deficienti che parlano, i mezzi scemi che parlano, che vanno dietro alle stronzate che li fai dire, sì, per far fare la brutta figura agli islamici, perché non si chiamano musulmani, te li chiamano islamici. Ma io infatti ho detto islamico, il musulmano l'ha detto quell'altro. No, no, ma tu chiami i musulmani, li chiami islamici, perché sembra una cosa peggiorativa. Vabbè, Mustafa, cosa vuoi da noi? Che sei un testa di cazzo. Sei un testa di cazzo, benissimo, bene. Ok. Ma beh, è una cosa un emerito testa di cazzo che sì, ce l'ha a morte con i musulmani. Ma io non ce l'ho a morte con no, i musulmani. No, ce l'ha a morte perché qualsiasi cosa che dice è una cosa che mi permette di che Mustafa, che l'ottimo Mustafa, sia l'esempio della grande integrazione della maggior parte dei musulmani. Cioè, per l'utilizzazione di testa di cazzo, bravo, queste cose qua. Bravo, siccome è l'esempio perfetto di quanto invece siano integratissimi. E ha ragione l'amico, sì, fratello. Ma senti, allora, non ricordo come ti chiami. Comunque, Parenzo, io sono un musulmano. Sì. E la cosa che non sa Crociani è che il saluto musulmano è un saluto di pace. Sì. Certo. Salam aleikum. Si dice, salam aleikum, che si dice in modo così, insomma, Salam aleikum, aleikum salam, dovresti rispondere. Ma chi lo contesta? Scusa, non ho capito chi lo contesta questo il saluto. Allora, non ho capito. Si dice in modo disprezzante salam aleikum per prendere in giro i deficienti. Ma chi se ne frega? Qui stiamo parlando di un'altra cosa, ho del capito, modo in cui, del modo in cui non tutti naturalmente, ma i musulmani in generale, appoggiandosi sul Corano, trattano le donne, le donne, chiaro? Trattano le donne. Il femminicidio è alla luce della cronaca, non se penso che siano musulmani, cosa diciamo? Gli italiani ammazzano le donne, ma che sono, è la cristianesimo ammazza le donne, no, sono dei teste di cazzo che esistono in tutti i posti del mondo. Sono delle donne, teste di cazzo come me. Scusami? Sono delle teste di cazzo come me. Come te che porti questa linea guida del ma quale linea? Quale linea? L'Islam che è una religione del cavolo ignorante. Ma chi l'ha detto una religione del cavolo? Beh certo, retrograda sicuro. Ma stai facendo il Ramadan o no adesso? Sì. Ma guarda, se faccio il Ramadan sono cavoli miei, non posso interessare tutti voi, insomma, comunque. Stai facendo il Ramadan o no? No, te lo chiedo perché siamo nel mese del Ramadan. Non ti abbiamo chiesto se appartieni alla cricca di Totò Riina, ti abbiamo chiesto se fai il Ramadan. Ma è una cosa che interessa a me e mia. Sei sposato? Creatore, sei sposato o no? Sono sposato e la domanda tua, se ti tradisce la mia donna... No. La classica, cos'è? Vuoi farmi dire le cose che ti portano alla corona? No, ma tu fai... lo scoop in diretta del no, musulmano, il musulmano, che tipo di sesso fa il musulmano? Che tipo di sesso? Sì. Ah, vabbè, un sesso, cosa vuoi sapere, se è anale... Lo fa o no? Che non sapeva quello che ha. Ma lo fai o no? Il musulmano lo pratica il sesso anale o no? Ma che ti interessa a te? No, ma è una domanda, tu segui le indicazioni di non praticarlo o no? Oppure te ne fotti? Allora, ma se non vuoi rispondere, non rispondi. Io ho detto sono musulmano, non ho detto sono praticante. Forse La segui questa linea o non la segui? È una cosa che interessa a me, non ti interessa a te. Vabbè, arrivederci. Antonio da Bologna. Beh, c'ha ragione. Sì, ah, sì, ma perché? Infatti, io ho detto arrivederci, infatti. Mi ho detto che uno stronzo. Antonio da Bologna, dai. Ciao, Antonio. Sani, ciao Parenzo. Dimmi. No, niente, ascolta, riguardo degli incendi in Sicilia. Allora, io sono uno che sono sempre stato contrario alla pena di morte, stasera faccio un'eccezione. Li voglio bruciati vivi in piazza. Ma chi? Quelli che hanno fatto gli incendi in Sicilia. Usando anche gli animali, bruciati vivi. Vabbè, amico mio, dai, adesso non passiamo. Perché bisogna dire queste follie sempre? No. Lui dice che bisogna bruciare vivo chi appicca gli incendi in Sicilia, sì, usando gli animali. Ma tu sei incazzato per gli animali, diciamo la verità. Certo, io ho due gatti, sono incazzato per gli animali, sono anche incazzato per tutto il resto, per l'ambiente, per la fauna, per tutto. Però questi figli di puttana qui devono morire male. Anche quei idioti sadici che hanno telefonato prima, che si divertono a vedere le scene con i conigli, quelli sono terribili. Beh, amico mio, uno chiama e racconta Borgatari del cazzo, non niente, tutto qua. Va bene, Pier, provincia di Palermo, vai. Eccomi, ciao Cruciani. Dimmi. Allora, adesso magari qualcuno si arrabbierà con me, poi io non ho per la sua lingua. Allora, io sono di Cefalù, ho visto con i miei occhi l'altro giorno, quando è stato l'incendio di giovedì, che quelli della forestale non hanno spento l'incendio. Uno, perché non hanno i mezzi. Quindi io mi chiedo cosa ci facciamo di 22.000 persone, 22.000 ricordo, in Sicilia, se poi non gli facciamo neanche spegnere gli incendi, perché loro non potevano spegnere gli incendi alle case, ma solo al terreno intorno, ma solo se il fuoco arrivava fin davanti alle case. Sì, ma non mi pare non mi sembri palermitano tu, però. No, io sono piemontese, però mi sono trasferito a Cefalù per amore. Però io mi incazzo, scusa se uso questo termine, quando sento queste cose, quando sento che c'è un Alfano che dice che hanno funzionato benissimo i soccorsi. Non è vero, e per assurdo dobbiamo ringraziare che i Canadair non hanno volato, perché non hanno tolto la corrente, perché quando i Canadair volano e sganciano l'acqua, tolgono la corrente in tutto il territorio. Fortunatamente non l'hanno tolta e i cittadini hanno potuto usare la loro pompa per spegnere l'incendio intorno a casa propria, perché a parte i vigili del fuoco, chapeau ai vigili del fuoco, quelli della forestale non hanno fatto niente, uno perché non avevano i mezzi, e quando avevano i mezzi erano senza acqua, quindi probabilmente qualche mio amico della forestale si incazzerà con me, però le cose bisogna dirle. No, ma infatti stanno. Il problema non sono i gatti, il problema è un altro lì, cioè i gatti sono una cosa divertente e anche tragica, drammatica, di bestie che piccano fuori ai gatti per non essere riconosciuti, per non essere pizzicati e per incendiare le foreste siciliane. Ciao. So you think you'll take another piece of me to satisfy your intellectual need. Allora ragazzi, intanto 100% animalisti, i soliti dementi di 100% animalisti attaccano manifesti e cartelli ovunque contro il sottoscritto, contro la zanzara, eccetera. Oggi vogliono protestare contro il premio Campiello, che è organizzato da Confindustria, no? Cioè, senti cosa sostengono questi signori. La Confindustria Veneta organizza il Campiello, la stessa associazione che è anche proprietaria di Radio 24, dalla quale nel programma La Zanzara un noto demente per un periodo si è divertito a offendere, sfottere, provocare animalisti, vegani e animali, in altre parole tutti coloro che provano empatia verso gli altri esseri viventi e senzienti e hanno deciso di non ucciderli, non sfruttarli, non mangiarli. Cioè, secondo questi signori, il solito mocavero, caro Parenzo, Confindustria dovrebbe chiedere scusa. Ma dai. No, presentare le proprie scuse agli animali. Ma mocavero non ha... Agli animali. Agli animali. Non ha una vita, una famiglia, degli affetti. Ma che cazzo ne so che fa. Non ha delle una vita ma sua propria, so. Mocavero. Comunque, ma il... mi ricorda sempre la mocca nel mocavero. Ti ricordi quindi... il sindaco di quello che ha citato Salvini ieri, il sindaco di Cascina? Sindaco la di Cascina. Sindaca vuoi dire? No, no, la sindaca è un cazzo, il sindaco, di Cascina. È giovane, ho visto che anche, è anche bellina, un bello aspetto, è molto, molto carina. Insomma. Lo sai cosa scriveva a gennaio scorso? Che la canzone Imagine di John Lennon è una canzone comunista e aberrante e dovrebbe essere tolta dalle scuole. Io farei una telefonatina a questo neo sindaco di Cascina. Pronto? Signora Ceccardi? Sì. Buonasera, mi chiamo Cruciani, come sta? Ah, salve. Ma lei vuole essere chiamato sindaco o sindaca? Perché io odio questa cosa di sindaca, proprio la odio. Anch'io la odio come lei, odio queste boldrinate. Io voglio essere chiamata sindaco. Bene, bravissima, applausi, applausi grandissima. Allora, però signora Ceccardi, io l'ho chiamata per un altro motivo. Lei ha detto che la Imagine di John Lennon è comunista, una canzone aberrante, com'è possibile? Ma com'è possibile? L'ha dichiarato lo stesso John Lennon. Cioè, In realtà non era tanto un inno alla pace, ma era un'ispirazione ai valori marxisti. Ma se voi analizzate il testo della canzone, è evidente. Beh, cioè, insomma, adesso, testi marxisti, è una canzone che parla di pace, di io non le... Dov'è che parla di pace? Facciamo l'analisi del testo come alle elementari, no? L'analisi ma del scusi, testo. Sindaca. Cosa dice? Aspetta, immagina. Aspetta. Sì. Ecco Parenzo, ciao Parenzo. Ciao cara. Si immagina? Sindaca. Si immagina? Aspetta, che ora non me la ricordo mica. Nord. Eccolo, infatti. Immagina una sindaca leghista a Cascina. No, ma l'ho capito, non si ricorda il testo, scusi. E ora mi cogli un po' alla sprovvista. Comunque no, aspetta, cosa diceva? Imagine. Vabbè, ma se uno non lo sa come fa a dire che è comunista, scusi. No, ora dai, ora ho capito, ma se non te lo ricordi come fa a dire che è comunista sto testo? Allora, immagina un posto senza religione. Senza immagina non esista paradiso. È facile se ci provi, te lo dico io, va, nessun inferno sotto di noi, sopra solo cielo. Immagina che tutta la gente viva solo per l'oggi. Immagina non c'è un paradiso, vuol dire appunto. Immagina non ci siano nazioni, non è difficile da fare, niente per cui uccidere o morire, nessuna religione. Immagina tutta la gente che vive in pace. Vabbè, ma insomma, ragazzi, ho capito, ma non è una cosa a te piacerebbe? Ma non lo so, un mondo senza religioni? Ma a me sì, io sono confini, senza nazioni. No, quello senza nazioni no, io sono ateo, senza religioni sì, però non è che nell'immaginario popolare non è Imagine non è un inno comunista, cioè non è una canzone comunista, è una canzone. Questa è la mia interpretazione, l'interpretazione di Susanna Ceccardi, che devo dire molti condividono. Molti condividono, vabbè. Perché aberrante? Perché un posto senza religioni, senza differenze, senza confini, secondo me non è un posto umano. E dunque aberrante. E dunque aberrante come sono stati i regimi comunisti, certo. Per cui sarà, se i bambini delle scuole di Cascina vogliono cantare Imagine, non si può vietato, fare. Vietato, vietato. Ma non è che è vietato, ognuno può cantare cosa vogliono, però a quei bambini gli viene imposto, lo sapete meglio di me, perché non è che il bambino si alza la mattina e va a cantare Imagine da solo sotto il comune, magari. Vabbè, comunque, caro sindaco, importante è che teniamo il punto su questa storia del sindaco, eh. Niente boldrinate. Niente boldrinate. Ciao, niente, presto. Ciao, ciao Susanna. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao. Mangia bene, mangia sano, salva una pianta, divora un vegano. JP Morgan Asset Management vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Aruba, soluzioni cloud per le imprese, solo su www.cloud.it. La Zanzara. Crucia, effetti collaterali del tuo podcast antilibidine. Il mio ragazzo ieri sera si stava sentendo il tuo podcast e ha fatto forfè. Voto. Vabbè, lasciamo stava. Pronto? Scusami Clemente, mi sono scordato di chiederti una cosa. Scusa, no, sei sempre in diretta. Mi sono scordato di chiederti una cosa. Ma oggi a Benevento, perché ho letto una cosa su, adesso sui siti, no? È morta questa bambina in piscina, no? Per... Ah, no, quella è morta in provincia di Benevento. Ah, in provincia, no, in provincia. No, pensavo che era a Benevento. Siccome dice che è stata violentata, volevo capire tu che hai un... Temo di sì. Ma tu hai violentatori, che faresti? Ai pedofili, violentatori? Cioè, con... No. Sono uno dei consigli peccati più gravi, più terribili. Ma sei d'accordo su sta cosa, sulla castrazione, per esempio? La castrazione, la castrazione mi fa una cosa così, cioè la cabana in galera, cioè in maniera da ergastolo. No, non la castrazione alla Salvini, la diciamo. La castrazione, no. Senti, ma c'è un'altra cosa, ma oggi hai visto che c'è questo rapporto incredibile del garante dell'infanzia che dice che in Campania praticamente l'incesto in alcune zone è quasi normale. Cioè dice così il garante dell'infanzia della Campania, dice che l'incesto in alcune zone a Caivano, Caivano, in altri quartieri è una cosa considerata praticamente la normalità. Ti risulta a te? Ma Caivano nella zona di Benevento, quindi no, lo so, però vabbè, tu anche che... di qua purtroppo là sono successi i casi del no, ma non solo Caivano, lui enumera due o tre posti con 200, cioè, centinaia di casi, dice vabbè, non te lo so dire, non ti risulta, però ti risulta. Insomma, no, non conosco la realtà, diciamo. Cioè c'è da credere a questa cosa qua, che l'incesto in alcune zone è una cosa normale? Temi di sì. Vabbè, ciao Clemente, ciao. Buono. Che mangi stasera? Pronto? Che mangi? Boh. Vabbè ragazzi, allora, nei giorni scorsi, come sapete, ieri l'abbiamo intervistato, il rugbista Lo Cicero è stato messo praticamente in croce per avere detto questa parola a Frocetti 10 anni fa. Alcuni dicono omofobo, lui ieri ci ha detto... Per aver scritto, riportato in un'autobiografia, quello che ti pare, uguale. No, non è che l'ha detto al bar per caso. Ma no, ha utilizzato la parola Frocetti durante, come dire, durante... Ma non era una conversazione privata tra due amici che... No, assolutamente. In ogni caso è stato messo in croce dalle associazioni, eccetera, eccetera. E succede praticamente lo stesso, secondo me è tutto ridicolo, cioè, ma l'abbiamo già detto ieri, a noi addirittura ha detto che celebrerebbe le unioni civili, le unioni gay in Campidoglio se dovesse diventare assessore allo sport della Raggi. Vabbè. E vabbè, questo insomma è tutto tranne che omofobo. E viene messo in croce in queste ore un nostro amico, uno che è diventato nostro amico, grande ascoltatore della Zanzara, che è Don Pusceddu. Perché c'è addirittura un amico della Zanzara, una raccolta di firme, decine di migliaia di firme raccolte per cacciarlo, perché avrebbe detto che i gay devono morire. In realtà abbiamo scoperto che non ha detto questo. Ha detto che devono morire spiritualmente, ma ha citato un passaggio di San Paolo. Don Pusceddu, che tra l'altro è stato rinviato a giudizio per avere praticamente minacciato il marito di una sua parrocchiana che l'avrebbe tradita, cioè sarebbe andato addirittura a minacciare il marito di una sua parrocchiana, addirittura mettendogli una pistola sul tavolo. Vabbè, è un processo che ha in corso Don Pusceddu, numero uno assoluto. Don Pusceddu. Che cazzo, butta giù. Don Pusceddu, non avere paura, siamo noi, siamo noi, siamo noi, vogliamo capire se è veramente minacciato con la pistola quello. Tipi da Zanzara, vai. Tipi da Zanzara. Alan da Bologna, dai. Vai. Buonasera, dimmi, dimmi. Ma io non capisco, con tutti i problemi che ci sono in Italia, e sì, questi froci che hai, non so cosa, sono la minoranza, non hanno problemi. Loro si fanno inculare, si inculano, vivono, ecco, la loro tranquilla, eccolo, vita, qua, no? Eccolo qua. Se il a te primo ti piace, perché non ti fai diventare? Perché non diventi gay anche te? Che problemi avete con l'omosessualità? Non ho capito, Alan, spiegami. Cosa abbiamo? Per noi vengono considerati malati da curare, basta. Ecco, dunque, anche per te sono malati da curare. Sì, malati da curare. Malati da curare, ecco lì. Scusami, ma questo mi chiama Anal o Anal, questo qui? La Anal, tua sorella. Si chiama, Romeo, grazie. Sì, è vero, Alan. Si chiama Anal, dove questo qui? Mi sa che... Io, della Turchia, da Istanbul. Alan, secondo me ti piace il sesso anale, secondo me. No, no, assolutamente sì, no. Sì, secondo me sì. No, nemmeno tua moglie fai niente, nemmeno tua moglie, nemmeno tua moglie. Chi se ne frega? No, ma per dire, le donne le rispettiamo. C'è un detto in Turchia che dice che nel buco della merda si va solo col badile. In che senso? Anche perché poi l'inizio di tutte le malattie è il culo, sai? Sì, lo so, ho capito. Ma lei, scusi professore, perché alle 19:43 scegli di affrontare con questa... No, però ha detto una cosa fondamentale: per noi musulmani gli omosessuali sono malati, giusto? Sì, si sa. Anche per gli ebrei, per i cattolici, anche per i cristiani, per gli ebrei, per le persone. Però voi li perseguitate di più. Però voi li perseguitate. Per soddisfare la donna. La donna è nata per soddisfare l'uomo. Perché tu li consideri così male gli omosessuali, Alan? Io non considero Anal male. Anal. Anal, tua sorella, ancora di nuovo. Anal. Mi chiamo Alan. Anal, perché li consideri così male, Anal? Io mi chiamo Alan. È uguale, Crociato. Dai, Anal, perché li consideri così male? No, Crociato, ascoltami, Crociato. Perché li consideri così male, Anal? Crociato, mi ascolti? Vabbè, Crociato. Alan, perché li consideri così male gli omosessuali? Sono Crociato. Sì, hai sì. Capito? Io li considero non il male. Malati, malati, perversi, malati, perversi, perché, perversi. Perché loro trasmettono queste idee ai futuri generazioni. Già, vedi, trasmettono l'idea alle future generazioni. Non ci sono più nascite. Beh, c'è la fine del mondo con gli omosessuali, dici. Ma sì. La donna viene praticamente smerdata, inculata come un animale, come una bestia. Ma basta. Musulmano. Ma questo è l'Islam. Guarda, è l'Islam, ragazzi. I musulmani la pensano. I musulmani, caro Crociato, la pensano meglio di te. Ma i musulmani, questi qua, i musulmani, va benissimo. Perché è una porcheria. Ma i musulmani non è una porcheria. Il musulmano, il musulmano, il musulmano, il musulmano, il musulmano, il musulmano, il musulmano, il musulmano, il musulmano. Discredente, ateo. Il musulmano, ecco il musulmano, ecco il musulmano. Discredente, ecco l'ateo miscredente. Quello che tratta la donna come un animale. No, tu bestia, la tratti come un animale. Tu la tratti come una bestia, perché la metti a pecorina e la vuoi inculare. No, ma quello che c'entra, quello è una pratica normale nel mondo occidentale. Sei tu in civile. Sei tu in civile. Gli animali fanno così. Ma che animale, lo vedi? Lo vedi? Nella standa, i porci, nella standa. Devi vergognarti, ti devi vergognare. Ti chiedo scusa. Ti devi vergognare, musulmano, questo pensi delle donne, ti devi vergognare, vergognati, ciao, vergognati, ciao, ciao. Non ho capito perché consideri malati gli omosessuali, spiegami. Perché sono malati. Perché sono malati, spiegami. Per me sono malati. Ma perché, dimmi. Perché uno che lo prende nel culo è ammalato. Ma dai, su, ma amico mio, dai, ma tu a tua moglie lo metti, lo metti in quel posto o no? Non rispetti le idee degli altri. Ma dai, su. Ma altri? Dai, ma come si fa a pensare una cosa del genere? Su, ma vai a vivere, ma vai a vivere da un'altra parte, dai. Sono normali loro per te? Ma certo che sono normali, vedi, ma ci mancherebbe pure. Vedi, per te sono normali, io rispetto il tuo parere. Ma non ho capito, per te devono essere puniti, devono essere puniti. Non sono normali. Devono essere puniti. Nessuno è nato da un culo, hai capito? Vabbè, abbiamo capito, ma devono essere puniti. Oggi è nato da un culo. Ma se la donna ti tradisce, che fai tu? Se tua moglie ti tradisce? Sono affari miei, poi lo saprai. Ma che succede? Dimmi se tua moglie ti tradisce. Ma no, io ho scelto una donna che non potrà mai tradire. Ma ammetti che ti tradisce, che succede? Morirà, ecco. Come muore? Come muore? Ma che dice? Ci penso io poi, alla mia maniera. In che modo, scusa, la ammazzi? Ma non te ne preoccupare, te. La ammazzi? Beh, però se, così, perché siamo in Italia qua. Se tu sei un uomo. No, ma fammi... Io sono un uomo, certo. Tu sei un uomo? Sì. Ma io ho seri dubbi. No, tu io sono... la tua... vero che tu sei un singolo, non te ne frega niente del matrimonio, sì. Non ti sposerai mai, non accetti, cioè per te certi e allora valori, non ho capito. Per te non esistono. Allora tu sei un animale nato, no? Va bene, ma può darsi pure che sia così, ma tu invece becchi tua moglie che ti tradisce, che fai? L'ammazzo. Tipi da Zanzara. Bene ragazzi, molto bene, anzi molto male, molto male. Dove andiamo, caro Parenzo, dove andiamo? Dove vuoi andare? Emanuele da Siena, vai Emanuele, vai. Sì, ciao, scusami. Sì. Senti, volevo rispondere all'amico di Napoli, di Bari, che diceva praticamente sempre relativamente all'incesto e quant'altro, sì. Che davano la diciamo la causa al degrado. Allora volevo dirgli, quelli che sono in Africa o c'è la guerra civile, che fanno? Si sarebbero inculati tutti a... Ma sì, ma, non, ma infatti non ha senso, quindi, non ha senso quello che dice. Credo che non abbia senso. Poi quello che volevo anche dire è che anche forse i napoletani, no, non possono dare sempre la colpa al... Io sono stato cioè, fratelli spagnoli, sicuramente non lo vivo, quindi non conosco... No, ma ragazzi, ma non l'ho detto io, l'ha detto un signore che fa di mestiere questa roba qua. E che dice che... I piagnistei un po' mi danno fastidio, no? Il piagnisteo sempre, il solito... C'è un signore che ha detto, responsabile dell'infanzia in Campania, eccetera, eccetera, avrà dei dati, non credo che parli a Bambera. Beh, sì, per forza. Ha detto che, addirittura citando 200 casi, ha detto anche un numero, che in alcune zone della Campania l'incesto, l'abuso sessuale nei confronti di minori è la norma, è una cosa di una gravità enorme, bisognerebbe intervenire immediatamente, chiudere tutto, sbarrare, fare irruzioni tutto? Nelle ma case, irruzioni nelle tutto? Case, esercito, controlli, ragazzi, ma se l'incesto è l'abuso sessuale... Ma hanno fatto intervenire le autorità, appunto, che dico io? Ma chiudere tutto, cosa vuol dire chiudere tutto? Chiudere tutto. Certi quartieri, certi palazzi, ma chiudere, cosa vuol dire chiudere. Che dici chiudere Riccardo tutto, da Bologna, chiudere la sala cinesca, giù la Claire, giù la Claire, giù la Claire. Composita con assistenti sociali. Ma tu c'hai sta fissazione degli assistenti sociali? Sei malato di assistenti sociali? No, Riccardo da Bologna, vai, fammi sentire Riccardo da Bologna, non rompere i coglioni che si sente pure poco, dai. Ciao, volevo parlare con Parenzo. Dimmi. Eccomi, caro. Ciao. Ecco. Allora, fammi dire una domanda semplicissima. Allora, quando a te ti scappa la cacca e non sei a casa, no? Interessante questo. Esatto, interessantissimo. Tu la fai, no? Oppure te la trattieni, arrivi a casa e poi dai sfogo a tutte... Questo è molto interessante, è molto interessante. È una cosa fate quando vi scappa la cacca e non siete a casa, diciamo, no? Sì, sono... Mi è capitato una volta sola e per fortuna c'era una farmacia, sono entrato in farmacia, ho preso, non dirò la marca, ma un prodotto che ha avuto un effetto immediato di cementificazione. Così ma perché non ho capito, non va nei bagni pubblici? No, a me non piace quello di bagni pubblici. Signorino, non va nei bagni pubblici. Do un elemento in più se vuoi, così mi puoi deridere per le prossime ore. Sì, parla più vicino al microfono. Mi puoi deridere da domani, così possiamo riprendere questo tema. Io non solo, per le rare volte vado nei bagni pubblici, io ricopro con un intero rotolo di carta igienica. Ma quello pure io, che tutta c'entra? Tutta la tavoletta. No, tu aspetti. No, ma quello pure io, tutta la vita. No, ma che c'entra? Mi amica... piace anche sederti dove c'è tutto il disastro. Ma quando mai? Ma non è vero, ma questo te lo posso... Ma... Tu fai anche con la scarpa chaff chaff quando vedi le macchiette per terra nei ma che sei pubblici. Scemo, sei impazzito. Sì, fai chaff chaff proprio volutamente. Ma assolutamente, ma assolutamente. Non vado mai... No, ma anch'io faccio la stessa cosa, prendo la carta igienica e circondo... Anzi, vado nel bagno dei bar, vedo che c'è un rotolo di carta igienica, esco e dico scusi, manca la carta e mi faccio dare un rotolo... Sì, quelli ti mandano a fare il culo di solito. No, in genere dico no, prego, dottore. Mi danno un rotolo in più, quindi uso il rotolo in più per ricoprirlo totalmente, metto anche per terra. E la fai la cacca nei bagni pubblici o no? Ti sto rispondendo, quelle rare volte, io intanto in genere la mattina, quindi non ho questo problema, perché facendo la mattina prima di andare a via... A casa, sì, certo. Ecco, esattamente, sì, a allora? Casa, in albergo dove mi trovo la mattina. Quindi qualora mi trovassi nella condizione di farla fuori, o faccio ricorso a questo cemento che compro in farmacia, quello... oppure ricopro interamente di carta igienica tutto e mi purtroppo a organizzarmi così. E ti trovi, ti organizzi così. Siete contenti adesso? E dunque che dici, Riccardo? Allora, io invece vi lascio così, vi lascio. Siccome a me è una cosa... Ma che volevi sapere da Parenzo? Non ho capito. Questo volevo sapere. Perché? Perché a me lo sai cosa succede? Questo. A parte che io ci credo che lui non la fa la cacca quando gli scappa in giro, perché quello gli fa schifo tutto. Poi a parte che metti la carta e poi ti appoggi comunque. Vabbè, no, quello ti è normale. Sulla carta. No, non è normale. Che cazzo di schifo. Non mi appoggio comunque. Tu sospeso un pochino, no? Tu rimani sospeso con le gambe. Vabbè, quello per esempio in bagno pure io rimango sospeso. In treno. Fa proprio schifo. Vabbè, poi, Riccardo, poi che vuoi? Quando a me mi è capitato che mi sono fatto il bidet nel lavandino di un cesso. Che non era di casa mia. La faccia lei praticamente. Vabbè, ti sei fatto il bidet nel lavandino? Vabbè. Ma dove? A casa tua? No, ma no a casa mia, se non ero a casa mia, siccome io mi devo per forza lavare, se no mi irrita il deretano, che è molto sensibile. Ma quello come tutti. Mi sono dovuto sciacquare al volo nel lavandino. Va bene, capito? Riccardo, ciao. Allora, Carlotta da Verona, vai. Sì, ciao Giuseppe. Io volevo rispondere, se possibile, a quel povero deficiente turco che con cui hai parlato. Ha detto anche Anal. Ecco, sì. Molto bene. Allora, intanto lui ci ha tenuto a sottolineare una cosa, cioè che la donna è fatta per soddisfare l'uomo. Scusatemi, anche se ho una certa età, perché io ho 30 anni che sono sposata, ci tengo moltissimo a soddisfare mio marito, ma se lui non soddisfa me, probabilmente il matrimonio 30 anni non sarebbe durato. Matrimoni che durano 30 anni senza che le persone siano soddisfatte. Il tuo ancora scopate, va bene, certo, molto piacere. E non solo, perché quelle pratiche che secondo i deficienti dei musulmani, e non mi vergogno a dirlo, sono scandalose, ognuno fa quello che vuole se non fa del male a nessuno. Su questo non c'è dubbio, okay? Su questo bene. Non c'è dubbio. Per cui se a uno gli piace essere sodomizzata, a loro non gliene deve fregare meno. Certo. Immagino che a te piaccia, così, giusto, a intuito. Allora, guarda, se vuoi che ti dica proprio la verità, dimmi la verità. Lo faccio, non è che mi dà più gusto il sesso classico, magari in varie. Però ogni tanto l'hai fatto, che l'ho fatto, perché però non lo pratichi, marito. Non lo pratichi, diciamo, ma io, abitualmente. Ma io non capisco, ma la gente non ha più imbarazzi. Ma perché dovrebbe... Non ho imbarazzo, Davide, non posso avere imbarazzo per il semplice motivo che sono a un telefono, non mi vede in faccia. Ma signora, i suoi parenti, il suo marito... Ma smettila! Casa, ma guarda, mio marito purtroppo non ascolta la Zanzara. È una cosa molto grave, ragazzi, la ci dobbiamo... Cosa che mi mette un po' in imbarazzo è mio figlio Massimo. Che vive a Milano e che invece è un appassionato della Zanzara. Vabbè, signora Carlotta, vuol dire, lei ci ha detto una cosa molto semplice. Ogni tanto faccio sesso anale con mio marito, però non mi piace troppo. Diciamo, mi piace più il sesso tradizionale, no? Diciamo tradizionale, però poi tradizionale o no, che vuol dire? Una informazione molto interessante. E ci sentiamo domani. Vabbè, comunque mi avete rotto il cazzo, mo ve l'ho detto. Andatevene a fanculo tutte e due. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, quando lo dica, a casa, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.